Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore a tenervi compagnia insieme a Maurizio questa sera in diretta fino alle ore 24, una maratona lunghissima dedicata a 5 amici, e poi ne parleremo. Vi ricordo che questa è un'emittente che trasmette anche in streaming audio, basta collegarsi nel nostro sito, cioè il www.bluradioveneto.it. Abbiamo anche la pagina su Facebook dove ci trovate con le varie notizie, e abbiamo anche la Rockwave, la pagina su Facebook di Rockwave, dove potete vedere gli eventi che faremo durante sempre ogni giorno, ogni settimana, insomma, e che siamo molto ma molto pieni. Il nostro numero telefonico in studio, se ci volete raggiungere, è lo 049 875 6423. Siccome la serata è molto bella, molto emozionante, molto grande, molto lunga, abbiamo anche la possibilità di essere raggiunti tramite un cellulare, che il nostro numero per gli SMS è il 346 23 20 033. Una serata all'insegna anche dello streaming video, siamo già in video, perfetto, grazie Michele. Abbiamo Michele Tosoni in regia, Roberto Baldi alle telecamere, abbiamo veramente lo staff gigantesco questa sera, abbiamo la Chiara Goffo alle fotografie. Maurizio, buonasera. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori, e una serata particolare. Dopo tanto tempo siamo riusciti a organizzare questo concerto di Natale, o presunto tale, di Blu Radio Veneto. Noi siamo molto felici, siamo molto contenti, sarà una bella cosa fino a mezzanotte, tante emozioni da sentire e da sviluppare decisamente. Come dicevo prima, è una serata emozionante per quel che mi riguarda moltissimo, perché loro sono dei carissimi amici prima di tutto, oltre a essere dei bravissimi artisti. Ve li voglio presentare, sono i Whites Voices. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new year's just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. Merry Christmas. che bravi, siete eccezionali. Io l'ho sempre detto che la vostra voce, le vostre voci sono veramente molto, ma molto emozionanti. Io lo sono, questa sera sarà una serata, come dicevo prima, lunghissima, 3 ore in vostra compagnia. I White Voices chi sono? Sono 5 elementi, uno più bello dell'altro, insomma. Bello. Bello. Bravissimi, sono grazie, bravissimi. Grazie. I loro nomi, allora cominciamo, cominciamo dal mio vicino. Tu vicino, non di casa. Presentati. Ciao, sono Marco Mengato. Mengato. Abbiamo Laura Pirri. Rita Muro. Abbiamo Marco Zago. Marco Zago. Marco Zago e Alessandro Alcolin. Loro sono artefici di tanti gruppi, sono, fanno parte di vari gruppi, però comunque ne parleremo magari dettagliatamente nel corso della serata. Benvenuti allora a Blu Radio Veneto, benvenuta da parte mia, a te, grazie, Laura, a te, grazie, Rita. Grazie, tu sei grazie già per stata averci qui invitato, sì, io sono di casa. Sei di casa, quindi ci sono anche ho suonato il citofono, ho detto Rita, Rita. Poi dopo ho detto Rita chi c'è. Okay. Abbiamo come special guest, si può dire, la Valentina Amore, che è un'altra dei Summertime. Ciao! È venuta a trovarci ciao questa sera, quindi doppiamente emozionato con Raffaele Tomeo. E niente, cosa facciamo stasera allora? Cosa ci raccontate di bello? Beh, barzellette no, meglio di no, no. Siamo in, nel periodo di Natale, quindi canteremo tanti bei pezzi di Natale, non solo. E non solo, perché comunque, cioè, voglio dire, facciamo anche tanto altro, abbiamo sì, passate tante influenze. Dai, esatto, passate dai Dream Theater a Natale. Esatto, mi esatto. È rimasto in mente che suonate con i Dream Theater. È una cosa che magari suonate cercate di avvicinarvi idealmente ai Dream Theater, certo. Ecco, possiamo dire questo. Sì, sì. Però il Natale fa bene anche i Dream Theater, secondo me. Sì, sì. È straordinario. Tutto fa bene a Natale, fa tutta la musica. A Natale fa bene tutto. Sì, è stata un'occasione che abbiamo cercato da diverso tempo, io e Agostino ci siamo messi d'accordo, grazie a voi, voi siete intervenuti, abbiamo trovato lo spazio giusto e sono cose meravigliose, molto belle, molto significative e assolutamente non convenzionali, perché a Rock Wave o a di Radio Sera, portavo a Blu Radio Sera, di Radio Sera una volta, a Blu Radio Sera non abbiamo niente di convenzionale. È tutto live, è tutto. Le scalette non sono mai fisse. Io di solito le cambio totalmente e gli artisti sono sempre impauriti. Ma non è vero! Non è così, assolutamente non è così. Infatti, abbiamo deciso di non farla proprio la scaletta, così ci siamo messi. Siamo entrati subito in questo modo. Abbiamo detto: bene, perfetto, decidiamo una canzone dopo l'altra nei nostri spazi di pausa. Certamente, è una cosa molto bella, una canzone dopo l'altra. Il programma dura 3 ore, però chiaramente sarà intervallato dai pezzi che abbiamo scelto. E come primo pezzo io ho scelto Little Drummer, cioè questo piccolo tamburino. Abbiamo scelto un pezzo di Antonella Ruggiero. Tu che Laura, Rita, che hai sentito il disco di Antonella, cosa ne pensi di queste rivisitazioni fatte da lei? È una poesia. A parte che, vabbè, lei come artista mi piace tantissimo. Ha una voce stupenda e poi proprio le ha veramente interpretate in maniera unica, cioè solo lei secondo me poteva fare così tanto bene dei pezzi già belli, perché sono comunque pezzi molto importanti. Dobbiamo sottolineare che l'arrangiatore è Roberto Colombo, che è il suo marito, il suo compagno da tanto tempo, e da tanto tempo arrangia tutti i suoi pezzi, crea le atmosfere particolari. Sì. Questo è un disco difficile, non è un disco di Natale convenzionale. No. Di Natale sì, ma fino a un certo punto. No, è vero, secondo me è proprio per pochi intenditori, non è proprio... Vedi, stiamo... Oddio, mi vedo da lì. Ciao! Roberto ha già sistemato tutto, quindi siamo totalmente col webcam. Che bene. Stavo già vendendo. Quindi è un disco non convenzionale, natalizio, difficile, complicato, ma assolutamente affascinante in alcuni momenti. Lei ha detto che Little Drummer l'ha fatta in maniera alla tedesca, anticamente com'era. Poi sono state tante versioni, c'è stata quella di Bob Seger, io la trovo meravigliosa. La conoscete quella di Bob Seger? No, non importa. Ce la fai sentire? Sì, se avessi il disco volentieri, l'ho lasciato a casa. Ecco, ti troviamo subito impreparato. Sì, ma tantissimi musicisti, tantissimi artisti, soprattutto di anglosassone hanno fatto questo pezzo, perché è un pezzo anglosassone al 100%. Lo sentiamo da Antonella Ruggiero. Sì, ok? Sì, benissimo. Bello. Vieni anche tu con me. queste mie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Allora, i White Voices questa sera a Blu Radio Veneto con queste tre ore di musica. Chi sono i White Voices? Io vi ho conosciuto, tra virgolette, molti anni fa. Eravate un embrione praticamente di gruppo, c'erano pochissime persone che vi conoscevano. Abbiamo cominciato. Poi adesso guardate una volta sul sito, avete un sacco di concerti, siete super richiesti. Veramente. È stata veramente un'emozione scoprire anche questa di voi. Bene. Penso che sia una cosa che vi fa piacere, siete cresciuti moltissimo. Sì, diciamo che abbiamo cominciato un po' di anni fa, tutti ovviamente ci siamo conosciuti in un'occasione molto bella, quando siamo entrati nei Summer Times, quindi io ho conosciuto questi due gioielli proprio nei Summer Times, dopo ci arriviamo, certo. La gente che ascolta Ago sempre questi Summer Times. Esatto, sì, ma parleremo poco, dai, diremo solo. Ma loro sanno che io amo i Summer Times, quindi non è una novità. Comunque vi siete conosciuti nei Summer Times. Ci siamo appunto conosciuti nei Summer Times, poi abbiamo cominciato facendo piccole cose, matrimoni in chiesa, esatto, ci chiedevano di cantare in chiesa, abbiamo cominciato così e dopo Marco. E dopo si è sviluppata un po'. Beh, chiaramente abbiamo visto che avevamo la passione comune, che era quella del soul fondamentalmente, e un po' del funk, e quindi ci siamo lasciati un po' prendere la mano e abbiamo deciso di provare a sperimentare un po' oltre i summertime e oltre ovviamente i matrimoni. Nulla contro i matrimoni, no, è chiaro, anzi sposatevi. Però, insomma, sposatevi. però... a proposito di matrimoni, una mia curiosità, ma la scaletta era prefissata o avevate la possibilità di andare oltre la scaletta? Dei matrimoni, dice. Sì. Posso dire una cosa? Dimmi. Dipende dal prete. Sì, perché effettivamente è così, nel senso che c'è chi è un attimo più aperto e quindi alle volte abbiamo avuto la possibilità di magari proporre qualche brano che c'è, cioè, per carità, sempre comunque sempre nell'ambito però un po' fuori praticamente. Sì, ho capito. Sacro. Apri una piccola parentesi, devo dare una brutta notizia, insomma, giusto per informare la gente all'ascolto. Nella zona di Vicenza sembra che il bacchiglione stia crescendo e stanno pensando di chiudere le strade perché continua a piovere. Hanno già chiuso le strade, sì. Quindi mi raccomando, maggior attenzione in quella zona lì, la zona di Vicenza. Sì, appena sapremo qualcosa di più, magari ve lo diremo. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al nostro repertorio, sì. Che poi abbiamo cominciato ad intraprendere questa carriera da gruppo. non da gruppi, da gruppo. E ci siamo, vabbè, chiaramente proposti un attimino prima in date, un attimo di prova, dove avevamo un pubblico magari un attimino più contenuto, intimo, in maniera da dire, ma facciamo una prova, vediamo cosa viene fuori, vediamo se è il caso poi di... E tutto sommato, insomma, abbiamo ricevuto dei feedback positivi, soddisfacenti, e abbiamo detto, vabbè, partiamo aspettiamo per fare cose anche sommato, un po' più alla importanti. Fine, esatto, e ci siamo trovati ad avere, cioè, diciamo, richiesta, nel senso che... Sì, abbiamo fatto partire una cosa che in realtà poi è partita un po' da sola, quindi sì, cioè, siamo contenti, sta anche andando avanti un po' da sola, quindi ogni tanto bisogna che corriamo, perché sennò veramente non ci stiamo quasi dietro. Ho visto che avete un sacco di date. Sì, sì. No, di conseguenza ci siamo messi a studiare di buona lena, perché inizialmente siamo partiti cercando un po' di capire come potevamo riarrangiare i pezzi, cercando di vedere, di trovare una formula nuova per proporli, quindi è uno studio continuo, soprattutto in questo periodo. Negli ultimi mesi ci siamo trovati veramente a studiare molto, certo, per capire un po', e tanti pezzi hanno subito modifiche anche diverse volte, perché magari non funzionavano come volevamo. E esatto, a livello di arrangiamento. Sì, poi c'è anche da dire che effettivamente noi ci siamo un po'... cioè ci piace giocare, quindi alla fin fine gli arrangiamenti vocali cerchiamo più che di stare lì a tavolino a scriverli, che per carità magari non abbiamo neanche le competenze assolute per permetterci di farlo, parti, infatti sì, ci facciamo aiutare dal nostro Marco Zago, sì, dal nostro pianista, ma a parte questo poi cerchiamo veramente di ci mettiamo lì, mettiamo tutti gli ingredienti e vediamo un po' l'impasto come esce quando siamo insieme. Anche perché abbiamo dicevo, volevo solo dire che abbiamo la fortuna di avere delle voci che insieme stanno molto bene, certo, quindi proprio a livello di timbri ognuno ha una voce diversa, però insieme riusciamo a fare delle cose molto belle senza particolari arrangiamenti vocali, quindi abbiamo questa come fortuna. Abbiamo una scuola di coro alle spalle, esatto, che ci ha aiutato non poco. Già l'avete di vostro, esattamente, la bravura poi oltretutto, sì, quindi, sì, insomma, no, il coro è sicuramente la scuola più grande che possiamo avere e si può avere per imparare a cantare poi insieme, perché ti aiuta automaticamente a riequilibrarti quando canti con altre persone e a trovare sempre l'impasto giusto. Tanto per fare un esempio agli ascoltatori, Marco Mengato è quello di Long Train Running. Sì, Laura Pirri. Non quello, vabbè, insomma, non quello originale. Laura Pirri, no, quella che cantava Forever Mountain, e la Rita Muro è quella che cantava assieme all'Antonella Now Behold the Lamb. Mi viene in mente questa canzone, sì, poi certo, ne avrai fatto delle altre. Certo. Ma da cosa nasce questa scelta di una canzone? Cioè, voi mettete lì, dice, adesso che canzone vogliamo cantare? Chi è che lo sceglie? Ma è una cosa un po'. Allora, diciamo che ci sono i gruppi o gli artisti ai quali noi ci rifacciamo, quindi spesso andiamo a pescare nei loro repertori, uno giusto per citarne uno, insomma Stevie Wonder è uno dal quale andiamo lì, gettiamo le reti e tiriamo i nostri preferiti, e tiriamo su tutto quello che viene, perché alla fin fine c'è. Cioè, quale Stevie Wonder? Quello di una volta o quello di adesso? Ma oddio, cioè, è difficile dirlo, nel senso che fatalità, è stato il mio compleanno ad ottobre, Rita mi ha regalato l'ultimo CD di Stevie Wonder, e nell'ultimo CD di Stevie Wonder ci sono dei brani che sono spaziali, e tra l'altro leggendomi il libretto mi sono reso conto che ha fatto collaborazione con, cioè è praticamente, ecco, tutto in collaborazione con Kirk Franklin, sì, e lì andiamo di nuovo a riprendere le nostre radici. E quindi Stevie Wonder degli inizi, spaziale, Stevie Wonder di adesso è ancora di più, perché comunque c'è una crescita. E tu che fai fai lo studio della voce, proprio uno studio particolare della voce, che voce può, come possiamo identificare la voce di Stevie Wonder? Soul sì, però un soul un po' particolare, non un soul classico. Ma ho sentito, ho avuto la fortuna di sentire l'insegnante di canto di Stevie Wonder parlare, e mentre lo preparava gli diceva, tu adesso sei anche pronto per proporre delle arie d'opera. Ecco, sì. E ho detto, no, non mi interessa, non mi diverto, tutto troppo statico, tutto troppo fermo, io ho bisogno di improvvisare. Lui di, può fare quello che vuole. Lui può fare quello che vuole, fondamentalmente, nel senso che, chiaro, a livello di tecnica vocale... a parte le basi, ha sviluppato comunque la capacità di muoversi su qualsiasi tipo di territorio, ed è un po' un esempio chiaramente per me e per tutti quelli che con cui collaboro e con cui magari condivido tutte le informazioni relative al canto che, e perché che ho. Sei passato dall'Ibanez alle Ugole? Perché sono passato dall'Ibanez all'Ugola perché probabilmente beh oddio in questo periodo particolarmente vorrei tornare all'Ibanez perché l'Ugola purtroppo mi ha un po' lasciato in queste due settimane mi sto dopando in tutti i modi ma ce la faremo. In ogni caso diciamo che è partita la passione della chitarra guardando un altro ragazzo che suonava la chitarra e ho detto wow, devo imparare a fare la canzone che sta facendo lui assolutamente. Poi l'ho imparata e un po' diciamo mi sono fermato lì, ma non tanto perché non abbia la passione della chitarra, perché ci sono dei chitarristi stratosferici. Io comunque sono sempre stato più appassionato di chitarra acustica che di chitarra elettrica, anche se poi insomma andando un attimo a sbirciare in diversi tipi di repertori certo. C'è da divertirsi comunque però sì fondamentalmente sei un poi, cantante sì, non sei un chitarrista non c'è niente diciamo. Da fare, ho cominciato a fare qualche nota sopra la chitarra e amore, non si può. E ho detto però ci stanno bene insieme però non ci arrivo a quella nota, come farò ad arrivare a quella nota? E da lì è nata un po' la passione per il canto e per capire un attimo come funziona, com'è, e la passione per la fisiologia relativa al canto stesso e di conseguenza a tutti gli studi che poi sono conseguiti. Visto che stiamo parlando di te, Marco, io vorrei soffermarmi sempre con te, poi magari uno a uno parleremo di voi. Che effetto ti ha fatto cantare Michael Jackson? mi ha fatto diciamo che allora, è uno degli artisti credo più impegnativi da interpretare, perché Michael Jackson non era solo un cantante, fondamentalmente era un, diciamo che hai cantato nel memorial dedicato organizzato da Barbara Capaccioli. Esatto, per me è stato un grande onore essere ciao Barbara, ciao Barbara. Essere stato chiamato da Barbara e anche Rita poi ciao, ha fatto Barbara. Parte è stata una grossa emozione, una cosa di un impegno che richiede dedizione e di conseguenza è comunque stato uno stimolo, grandissimo stimolo, ed è quello che fondamentalmente per me è Michael Jackson, come tutte le voci che lavorano in un certo modo, diciamo, senza nulla togliere a tutti quelli che in realtà magari a livello di tecnica vocale magari sono un attimino più fai da te tra virgolette, però vabbè, è chiaro, ognuno ha la sua indole, io mi ispiro a quello che mi suona bene e di conseguenza sì, Michael Jackson è uno di quelli, chiaramente. È stato impegnativo e difficile, però cioè per me è un grande onore e spero che i feedback ci sono stati positivi. Da parte poi, mia sì, quella diciamo che poi quando mi riascolto i feedback negativi ci penso io a darmeli e di conseguenza comunque voglio dire li vedo sempre comunque come uno stimolo, quindi cioè, certo. Ma tutto il concerto comunque è stato bello, indipendentemente dalla voce tua, sì, beh, ma anche dalle altre, è stato veramente fatto sì, anche in maniera splendida. I musicisti. Beh, insomma, scusa, c'erano i Piovan, c'era ciao Ale, ciao Checco. Ciao io. Questo era Alessandro, che è il batterista praticamente. Poi parleremo anche di te e sì, tutto qua. Ne ho approfittato solo per salutare. Ascoltiamo una canzone adesso. Cosa ascoltiamo, Maurizio? Bene, noi andremo con sì, visto che abbiamo pensavo il disco, scusate. Bene, torniamo alle lo presentiamo di visto cui che parlavamo. Abbiamo parlato fino adesso del fatto che comunque noi veniamo dai Summertime. Io dico soltanto che questo è stato uno dei primi brani che ho interpretato nei Summertime, e quando Walter mi ha chiesto di cantare questo brano mi sono emozionata tantissimo, perché è uno dei brani che ricordo con ricordo veramente con amore. È proprio il brano, io mi associo a Use Me, quando ricordo i Summertime dico Use Me. La mia vita nei Summertime è cominciata così, quindi con piacere ve lo facciamo ascoltare. Mi approfitto per salutare la Alice che doveva essere qui questa sera, invece per colpa mia ecco, non ha potuto venire. No, dai. Ciao Alice. Ciao Alice. Ciao. So che è all'ascolto. Allora, Use Me. If you

Allora, sempre diretta qui a Blu Radio Veneto, giovedì 23 dicembre 2010 con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara a intervistare questi cinque fantastici ragazzi che ci stanno tenendo compagnia in una maniera splendida con le loro voci e il loro suono. Alessandro, sei stratosferico. Grazie. Alla batteria, e Marco, poi non ne parliamo, alle tastiere. Allora, io ne approfitto ancora per aprire di nuovo la stessa parentesi di prima, di poc'anzi, cioè siamo stati informati che a Vicenza il bacchiglione è cresciuto notevolmente al punto che hanno dovuto chiudere le strade. Io invito cortesemente qualche autista, qualcuno della zona, qualcuno che sa qualcosa di più, a mandare un sms, magari anche a telefonarci qui in studio. Vi ricordo il nostro numero telefonico, che è lo 049 875 6423, oppure il nostro numero di cellulare per gli sms 346 23 20 0 33. Credo sia molto importante dare anche queste informazioni per chi sta guidando, e magari in quelle zone la situazione non è per niente bella. Cambiando discorso, allora siamo in diretta streaming, audio e anche video. Questa sera stiamo provando un nuovo sistema, c'è la nostra cameraman che sta girando in mezzo a noi, la Chiara. Allora, se ci volete vedere anche in video, e questo è possibile in diretta streaming video in tutto il mondo, diretta rockwave.tk, lo ripeto, diretta rockwave.tk, Torino K. Quindi avete anche la possibilità di vedere questi cinque fantastici, dicevo prima, ragazzi, a suonare, cantare e parlare, insomma. E adesso parliamo un momento con Laura. Un secondo prima dobbiamo ringraziare il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, e tre ragazze che ci seguono sempre, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia. Adesso parliamo di te, Laura. A me interessa sapere una cosa. Tu hai fatto una tournée con Alice Bortoletto, giusto? Allora, stiamo iniziando un progetto insieme in cui io sono entrata da qualche mese. E in realtà gli Istanbul Caffè, che sì, è Istanbul il nome Caffè, del gruppo, sì, esatto, e lavorano già da diverso tempo insieme. Saremo qui comunque, Maurizio. Benissimo. E, anzi, sono partiti ormai. Beh, quanto sì, ormai tempo siamo fa? Partiti... Mi faccio aiutare da Alessandro Arcolin, sì, che è percussionista, okay, e batterista del gruppo. Dai, vai, dai, dimmi dentro anche lì il progetto che hai, oltre al Dream Theater, che è quello che citeriamo dopo. Cioè, molto importante quel Dream Theater, perché cose. Vorremmo arrivare a una cosa che poi ho già in mente io. Va benissimo. Benissimo. Ho paura. Dimmi, allora, questo è Istanbul Caffè. Ma nascono nel 2009 ormai, sì, maggio 2009, diciamo, e abbiamo iniziato facendo musica nostra, tre canzoni in particolare, che ci hanno permesso di vincere un piccolo premio, un piccolo concorso, Rock Solidale a Casella di Selvazzano, con cui abbiamo fatto poi una demo, e comunque abbiamo potuto iniziare questo percorso insieme. È stata un po' l'occasione che ci ha riunito. Siamo tutti ragazzi che, se non stanno a Rubano, stanno a Bosco, se non stanno a Bosco stanno a Sarmeola, quindi siamo proprio siamo lì, tutti zona. Lì, non ne scampa uno, e a parte la nostra violinista Irene, che saluto, che è di Lyon, però l'abbiamo dal Bignagego, non in Francia, non vorrei mai... Che male c'era, se era francese. Istanbul Caffè, che cosa significa musicalmente parlando? Musicalmente parlando significa veramente tante cose, ma la principale è musica acustica, tornando un po' alle origini, cioè a usare strumenti che non per forza debbono avere l'elettricità o comunque valvole o cose strane. Noi addirittura siamo partiti da veramente percussioni, mandola, chitarra acustica, chitarra classica, con Francesco Rocco alla mandola e chitarra classica, e Marco Stefanelli invece alla chitarra acustica, che salutiamo tutti, no, che è tornato, è tornato all'Ovile per qualche giorno fa. Ma è tornato dalla Spagna, e nasce proprio per tornare all'acustico. Quindi E il repertorio poi qual è? Beh, il nostro repertorio, abbiamo, oltre a queste tre canzoni, comunque ci sono, facciamo un piccolo tributo ad André. Ecco, ci fermiamo a questo. Io volevo proprio questo qua. Adesso un flash, sì. Te e la Laura, certo, fate un momento dedicato a Fabrizio De André, a vostro piacimento. Un pezzo velocissimo, un 30 secondi, un 30 quid, secondi. Perché le scalette vengono sempre stravolte da me. E so che è una cosa diversa. Ce la fate? Un 30 secondi, un pezzo qualsiasi. Certo, ma la Laura è preparatissima. Io lo sapevo che era preparatissima. Via del campo, sì. Via del campo c'è la possibilità. Adesso chiediamo, ovviamente, se c'è disponibilità. Sì. Finché la Laura cerca intanto. Sì, perché il nostro magico tastierista. Io ne approfitto di questo momento perché non l'ho mai fatto pubblicamente, Alessandro. quella sera del concerto ho avuto l'onore di essere salutato da voi in una canzone che Alice me l'ha dedicata, tra l'altro. Quindi Alice, in questo momento allora ti dedichiamo questo spazio a te, grazie di quella dedica. E mi ha fatto veramente molto piacere avere questo saluto quella sera in concerto. So dovere, se te lo ricordi, sì, sì, mi ricordo benissimo. Ho avuto più volte modo di riascoltare quel concerto, anche per uso didattico, c'era personale. C'era anche la... Eravamo noi come ospiti, Istanbul, con ospiti, c'era Marco, Erika, la Erika. C'era Laura e c'era Erika De Lorenzi, assolutamente. Eravate, sì. Africa era il pezzo. Che Africa era il pezzo finale dedicato ad Agostino. Sapendo che mi piacciono i Toto. Assolutamente. grazie ancora. Alice. Dovere. Facciamo un altro pezzo. Noi, sì, un altro. Qualche momento. Magari qualcosa che non dimentichi, Laura, che però non c'è. Sì, avevi. Avevi e si è dimenticata, perché stavo per dire facciamo cose che dimentico, tra cui il testo allora, di cose che dimentico. Intanto finché Laura si ricorda, oltre al Fabrizio De André, sì, altri progetti sempre con Istanbul Caffè. Allora noi come Istanbul Caffè ora stiamo lavorando per cercare di comunque comporre e avere la possibilità di avere un CD, una demo di canzoni nostre, di nostra produzione, perché vorremmo un po' uscire dai canoni delle cover. Esatto, è giusto uscire dai canoni delle cover. Per avere un po' di cose nostre, un po' di fare un po', per quanto poco, un po' di storia anche per noi, per avere un po' di soddisfazione in quello che si crea. E adesso stiamo appunto, abbiamo già buttato giù più di qualche testo, ci sono molte idee per le musiche e credo che col ritorno definitivo del nostro chitarrista Marco Stefanelli, che tornerà in Spagna, sì, per 2 mesi ancora in Erasmus, ma poi rimarrà qui, penso che al suo ritorno stabile ci sarà tanto bel lavoro da fare, che è quello che ci manca tanto e che vogliamo tornare a fare assolutamente. Benissimo, allora facciamo così, facciamo questo excursus. Al limite lo facciamo dopo il pezzo di dedicato a De André. Certo, vediamo, sì, di recuperarlo più tardi. Okay. Adesso presentiamo, così vi riposate un momento, presentiamo un classico natalizio anglosassone che è cantato da Ellie Lennox, First Noel. È stato cantato da Susan Boy e da altra gente. La versione di Annie Lennox è bella, perché Annie Lennox ha una bella voce, ha fatto un disco di Natale completamente, di cui l'ultimo pezzo è dedicato a una cosa sociale, caritatevole, Universal Child. Sentiamo questo pezzo di Annie Lennox e poi vediamo cosa i White Horses ci propongono dopo Annie Lennox, ok? Ok. First Noel the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay a-keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel, Noel, Noel, born Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 88 e 700 e 94 e 600 sono le nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto. Questa è, come dicevo prima, la voce di Agostino Esplorore con Maurizio Calzavara a intervistare questi cinque ragazzi. Allora, Laura, eravamo con te, poi ci siamo un attimo lasciati andare con gli Istanbul Caffè. Allora, tu hai avuto esperienza anche con i Movie Trio? Sì, ho avuto. Sai che sono stati grande ospiti qui? Sì, sì, sì. Ci hanno regalato una serata poi, tra l'altro, splendida. Erika è stato. Poi è l'amore di Maurizio, Erika l'ha chiamato l'usignolo. È l'amore di tanti. No, beh, Erika, tra l'altro, adesso non è Erika, perdonami. No, se tutti stai sono innamorati della Erika. Però in realtà, sì, vero, io devo ad Erika, sono innamorata tra virgolette anch'io di lei, nel senso che mi ha dato tanto a livello canoro. A parte che è un'amica, prima sì, di tutto, è una splendida persona, ma poi a livello canoro è stata la mia prima insegnante. Cioè, se io devo ricordare da chi sono, con chi sono partita. Lei è proprio la prima persona. Io avevo 13 anni e ho iniziato a cantare nel coro della chiesa con lei che dirigeva, ed è stata la prima persona che proprio mi ha dato le dritte fondamentali per partire, quindi penso che sia una delle colonne portanti poi di quella che è stata. È stata una bella esperienza comunque con i Movie Trio. Assolutamente sì. Poi lì c'hai tanto un amico, c'hai un grande amico, Alessandro. Alessandro Modenese. E infatti, due persone a cui sono molto legata e a cui devo molto. Mi hanno coinvolta in qualche concerto con il Movie Trio, e proprio per sostituire Erika, impegnata anche in altre date, in altre serate, e devo dire che è stata una gran bella esperienza dal punto di vista umano, ma soprattutto dal punto di vista anche artistico, e mi ha avvicinato ad un repertorio che ho avuto modo di studiare in maniera. Un conto è ascoltarle, un conto poi è interpretarle, cantarle. Poi sai cosa, è anche strana questa formazione, cioè la tromba, la chitarra. Acustica, a volte elettrica, e la voce. Sì. Sembra veramente un gruppo strano, eppure viene fuori un suono che è una voce. Sì, comunque. Sì, è vero, in realtà sembra, di primo impatto può sembrare un accostamento un po' bizzarro forse. E poi ascoltandoli sia da fuori e anche cantando con loro c'è un impasto che è talmente coinvolgente nel mentre, e penso che sia stata un'idea geniale quella che hanno portato avanti negli anni e che poi alla fine dà loro il successo. Beh, adesso hanno veramente molto successo. Sì. Una piccola chicca, forse li riavremo qui. Grazie al sottoscritto che sta spingendo per riaverli per una serata dedicata alla Shoah, già ve lo dico. Insomma, sì. Quindi, però, stiamo in trattative, insomma, stiamo vedendo di fare questa serata. Approfitto, Agostino, scusami, per dire che Alessandro Modenese suona anche con noi in tante serate, siccome lui è una persona molto impegnata. Ma sì. Con Flavio? No, con noi come White Voice. Sì. Abbiamo anche dei concerti, infatti, prossimamente anche con lui. Diciamo che cerchiamo di alternare un po' le due cose, perché ci sono dei concerti dove la chitarra rende nulla togliendo a Marco, perché lo adoro, però ci sono dei concerti dove veramente abbiamo bisogno anche della collaborazione di Alessandro, quindi ecco, ne approfitto per dire questo, che è una persona eccezionale. Sì, come si fa a meno di Alessandro? Non si può fare a meno di Alessandro. Ciao Ale. Io l'ho visto anche con la Laura, che sono andata a sentire la Laura quella sera, ti ricordi che hai fatto il tributo ad Elisa? Sì. Vedi, è il pensiero. infatti abbiamo lavorato per un anno sì, anche a questo. Tanto per chiudere con te, Laura, il discorso invece con i Force? È un nuovo questo repertorio gruppo, di sì, musica. In realtà è una novità assoluta che ha preso un po' alla sprovvista anche me. Sostituisco, è un gruppo che è nato facendo tributo agli Europe. E facevano esclusivamente questo ancora poco meno di un anno fa, 9 mesi fa è partito. Poi c'è stata un'evoluzione, diversi cantanti che sono cambiati nell'arco dei mesi, fino ad arrivare a poche settimane fa, in cui c'è stata proprio una rivoluzione anche nel repertorio, quindi si è deciso, oltre agli Europe, di inserire anche altri artisti, comunque tutto anni 80. Io devo dire che il mio primo amore è il gospel, proprio in assoluto. Kirk Franklin, però dentro di me c'è un'anima abbastanza rock e adoro questo genere, a me piace da morire. E quello che stiamo facendo, in due settimane ci siamo ritrovati, sono entrata nel gruppo e ci siamo ritrovati a rimettere in piedi un repertorio che neanche loro avevano pensato inizialmente così. Chi c'è nella formazione dei Force? Allora, puoi nasce, citare i nomi? Grazie ad Emilio Bottazzi, che tra l'altro è chitarrista e insegnante all'Officina della Musica di Rubano, e Guido Bottazzo alla batteria. E loro due sono le prime due persone che hanno proprio fatto nascere questo gruppo. E Carlo Rubini al basso, che è anche lui un nuovo entrato nelle ultime due settimane. E alla tastiera c'è Matteo Bortoletto, tra l'altro padre di famiglia, suo figlio suona al basso anche lui. Diciamo che lui è legato all'Officina della Musica, quindi è tutto il mondo che ruota intorno poi alla scuola di Rubano. E quindi è cresciuta un po' così, abbiamo fatto tre serate nell'ultima settimana, di cui l'ultima ieri sera. Proprio devo dire che è bello vedere che in due settimane si riesce a mettere su qualcosa che funziona. Una curiosità mia personale: l'ultimo pezzo della scaletta di ieri sera cos'è stato? L'ultimo pezzo? Living on a Prayer dei Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi, Sì. Non fai un refrain, un secondo di questo pezzo, ce la fai? Ah, cioè, lo volete sì, proprio? Sì, a cappella, solo da te. Un secondo. We gotta hold on, you know we got all we the soul and the freedom we got. Oh, and hold we there. Oh, living on a prayer, take my hand and make it our swear. Oh, living on a prayer. Bene, lui è bravissima, bravissima. Adesso in classifica sì, chiaramente tutto il mondo con la Greatest Hits, volutamente l'abbiamo citato. Ok, adesso possiamo proseguire. Una cosa molto bella che facciamo adesso, siete pronti? Sì. Siete tutti pronti? Così sembrerebbe. Bene, allora proviamo, andiamo. Shining the east behind. Sport. Venezia è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Aiutaci a mantenere intatta la sua originalità. La città di Venezia e il rilancio dell'edilizia sono i nostri obiettivi. Se hai un immobile di proprietà nel centro storico veneziano e vuoi detrarre dalle tasse il 100% delle spese per la manutenzione della tua casa, sostieni anche tu la nostra campagna di adesione a questa proposta inviando una mail a info@consulentidellavoro.venezia.it. È un'iniziativa dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia. Per info visita il sito www.consulentidellavoro.venezia.it per il rilancio dell'edilizia e dell'economia veneziana. Telechiara. Da 20 anni la voce del Nord-Est la trovi sul tasto 14 del telecomando. Per informazioni telefonare allo 049 84 81 900 o visita il sito www.telechiara.it. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, lo so, era un po' difficile. Lo so, era difficile. Sì, sei stato un po' cattivo. Ma è bello! Era di bellissimo, era un pezzo bellissimo, una tradizione americana, anglosassone, sì, inglese, americana. Fatta da Annie Lennox, ma poteva farlo qualcun altro, l'ha fatta anche Susan Boyle, che adesso è numero uno in America, sì, sempre sì. Con un album che ricorda il Natale, e c'è questo pezzo meraviglioso. Io lo so che scombino sempre le scalette, ma il bello di Blu Radio Sera è proprio questo: scombinare le scalette, dare emozione, sensazione, feeling, come dicono gli americani. Certo. E questo era così. Amen, fratello. Bene. Io ho una curiosità che me la devo chiedere da 4-5 mesi a questa parte. Oddio, dobbiamo preoccuparci. Noi, sì, sì. Aiuto. Aiuto. Noi siamo in contatto tramite Facebook, ovviamente. Sì. A me è arrivato un invito un giorno, era estate piena, che mi invitavate a venire a un vostro concerto vestito da Babbo Natale. Sì. In estate, perché? Natale tropicale. È stata una cosa bellissima. Sì, molto sì. Bello. Insomma, non discuto su questo, ma come mai questa un idea? Eventone, cioè, beh, sì, più che altro l'idea è stata chiaramente degli organizzatori, eravamo al Blue Moon, Blue Moon. Esattamente. Blue Moon. Non so perché si è venuto Blue Moon. No, niente, fondamentalmente si sono inventati di preparare tutto a Natale, anche se era in agosto. Però diciamo che la giornata in realtà era da Natale. Era identica a questa, diciamo, quindi voglio dire, diluvio, tutto sommato non ci poteva stare benissimo. Mi è rimasta in mente questa cosa, da appena vedo, poi ogni volta che vi ho visto non mi sono mai ricordato. Poi ma ci siamo divertiti. Abbiamo cambiato bello. Un po' di testi perché insomma, sì, va bene. Beh, insomma, è ovvio. Estate. Dobbiamo cantare i brani ma in Natale. C'era qualcuno però che è venuto vestito da Babbo Natale? Eravamo vestiti noi da Babbo Natale, avevamo i cappellini, avevamo tanto di cappellino vestiti di rosso e bianco. Allora, c'è un messaggio per te, Laura, che comunque troverai sulla tua cosa. C'è scritto: vai Laura, vedrai che musica giusta suonerà a dovere in te e attraverso te. Grazie. Grazie di chiunque sia. E Andrea. Grazie. Andrea Lazzaretti. E poi dimenticavo che c'era una voce femminile che faceva parte del vostro gruppo, che è la Serenella. Sì. Che non so che se salutiamo. Sì, speriamo di sì. Ciao Sere. Serenella Pecoraro, che per motivi di logistici lavoro. Si è trasferita in un'altra città, quindi bene, allora facciamo un attimo di pausa adesso con una canzone vostra o l'ascoltiamo dal disco, cosa preferite? Come volete. Siete pronti a cantare un'altra canzone? O... ma... sì, dai, siamo pronti a tutto. Dai, siamo carichi. Allora, sì, facciamo qualcosa di... allora, cosa fate? Stevie Wonder. Vada per Stevie Wonder. Ci proviamo. Looking back on when I was a little nappy, it had gone. walk within my thoughts. Even though it's sometimes when I get up then we were happy with the joy they bring, yeah. Snacking up to bed to end up with a sibling friend of mine. Ready on mine, ready on mine. Created up to bed to without but no, you don't have to go outside. Try the best to bring that world to your eyes. Thinking it might stop them from rubbing your behind. I wish those days could come back once more. What did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. What did those days ever have to go? Prophecy is telling about you playing Dr. Witten. Just thought that I'd give you anything you want in this one world. Mom gives you money for Sunday school. You trade for candy, have to change your story. Smoking cigarettes and writing something nasty on a wall. You nasty boy, did you sit to the principal's office downfall? You grow up and learn that kind of thing ain't right. You were doing it. You're doing it fair. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, ancora buonasera da Blu Radio Sera e da Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino con Maurizio Calzavara a tenere compagnia questa serata con questi cinque voci straordinarie. Ne approfitto per leggervi due messaggi che sono arrivati. Allora, il primo dice: qui a casa postazione tecnologica per i White Voices, siete la voce dei nostri pensieri e sorrisi. Enrica, Claudio, Anna, nonna, Cagnolino e Canterino. No, Cagnolino e Canterino, non so che siano. Sono la mia famiglia. Ciao papà, ciao a tutti. Ciao, sì, sono tutti. E anche Cagnolino Canterino. Ecco. Allora, ciao Mimmo. Ciao mamma. Allora, e poi la seconda dice: ciao, volevo fare i complimenti a tutti i White Voices che sono veramente bravi. Seguo spesso quando passo quando posso. Domenica Rovigo, nonostante il freddo, avete riscaldato. Grazie. Grazie. Grazie. Bellissimo evento, ci state regalando delle emozioni splendide con un valore aggiunto che tocca i cuori, la voce di Rita. Saluti e complimenti a tutti. Tutti Ari e amici. Poi volevo dire a Rita che sta proprio bene con i capelli rossi. Andrea Spinea. Ah, non sono rossi i miei capelli. Spiegaglielo tu. No, ormai mi arrendo, non lo spiego. Allora, grande Stevie Wonder. Grande Stevie Wonder. Io ho fatto quello che potevo questa sera, perché d'altronde purtroppo la mia voce è... No, mi mancavano alcune armoniche superiori della voce, però in realtà, insomma, dai, È andata. Sono contento. Mi sono divertito. Mi sono divertito. E spero che vi siate divertiti. Sciogliamo la rita. Sciogliamo la rita. Allora, Rita. Anche tu nasci dai Summertime? Sì, beh, non nasco dai Summertime, non diciamo proprio così, diciamo che ho cominciato a cantare molto piccola. E io nasco in teatro, in realtà, perché ho scoperto la passione per il canto in teatro, perché ho fatto diversi musical, diverse commedie, perché appunto venendo da Napoli, sai che a Napoli vanno molto le commedie, no? E quindi ho cominciato, ecco, così, a recitare. Poi recitare, dai, perché non provi a cantare? Perché non provi a cantare? Ho cominciato ad approcciarmi alla musica con la musica napoletana classica. E niente, quindi mi sono appassionatissima alla musica napoletana classica, infatti ne vado orgogliosa, diciamo che secondo me mi esprimo molto molto meglio nella musica napoletana classica, perché proprio ci metto tutta me stessa. Oddio, no, dai. Sì, un lo faccio anch'io come Maurizio, dai, un pezzettino. Oddio, lo fai anche tu come Maurizio. No, lo fai te. Però, no, anch'io ti faccio la stessa domanda che ha fatto Maurizio con Laura. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che se tu guarda me, ma non mora così, guarda a te. Basta. Sei stata bravissima. Grazie. E una cosa che mi interessa sapere da te, il discorso del funky, perché questo pezzo di Stevie Wonder era molto funky, e tu sei un amante del funky, visto che hai un progetto funky, che gira e rigira, va e viene. Allora, sì, noi insieme a Flavio Bordin, ad Antonio Donner, Alessandro Piovan, Francesco Piovan. Francesco e Alessandro sono musicisti dei Summer. Assolutamente sì, ce li siamo portati dietro. Summer cosa? No, Summer Time. Non l'avevo capito. Aspetta, Rita, posso fare? C'è la Valentina, volevamo fare un saluto alla Valentina. Ecco, Valentina, vieni a salutare. Ciao Valentina, vieni. Stiamo parlando di Summer. Vieni qua. Allora, questa è Valentina Amore, che tra l'altro suo fratello è un nostro collega, da pochi giorni. Nonché anche cantante dei Summer. Nonché anche cantante dei Summer. È venuto a fare un po' di stage qui a Blu Radio Veneto. Ciao Gian. Ciao Gianluca. Valentina, saluta. Ciao a tutti. E basta. Donna di poche parole. Vieni, dire qualcosa, fai i complimenti, che ne so, saluta. Allora, facciamo una cosa del genere. Raccontaci com'è andato sabato a Milano. Allora, a parte la temperatura glaciale, eravamo tutte sotto zero, noi donnine vestite tutte in sottoveste rossa, è stata un'esperienza bellissima. Ci siamo difesi bene, abbiamo riscosso grande successo, abbiamo cantato davanti a più di 12.000 persone e ci siamo sentiti a nostro agio. E vi possiamo vedere? Ci dovete vedere minaccia il 25 dicembre alle ore 16 su Italia 1, che c'è l'Ice Christmas Gala, e ci siete assolutamente voi. Bisogna vederlo tutto. Perché ci sono fino alla fine, vederlo e sentirlo tutto. Vede, sì, perché noi ci si sentirà più che ci si vedrà. Ecco, insomma, adesso posso togliere il disturbo. Sì, va bene. Grazie a tutti e buona serata, buona continuazione. Grazie a te, Valentina, di essere venuta a trovarci. Grazie. A proposito, comunque è stata una grandissima emozione poter cantare di fronte a dei pattinatori di levatura internazionale. Beh, insomma, sì, c'era anche campione del mondo, se non erro. E cioè vedere questa gente che vola a un metro e mezzo, però insomma facevano di quei voli e poi atterravano sul ghiaccio come dovessero, non so, facessero la cosa più, cioè, per carità, sì, è vero, lo fanno in maniera naturale di lavoro però è veramente allo stato dell'arte, è una cosa che risulta emozionante. In più unisci la musica che cioè diventa veramente una cosa pazzesca, spaziale. Eravamo a te, Rita. Eravamo a me, ho detto, oh, si sono dimenticati, meglio. No, come dicevo, sì, c'entro con il funky perché appunto FJ Quintet è il nome del quintetto che mi vede come cantante solista. E abbiamo cominciato, credo ormai 4 anni fa, e diciamo che l'ideatore è stato Flavio Bordin. Abbiamo preso dei pezzi classici anni 70-80 e li abbiamo riarrangiati in chiave jazz, funky, E abbiamo una fusione tra musica, canzoni italiane, canzoni invece in inglese. Abbiamo anche un inserito Pino Daniele, quindi anche del blues misto funk, diciamo. Sì, che sì, Pino Daniele è continua, tutto. Continua, io stavo facendo la domanda, pensavo una cosa. E niente, quindi diciamo che ognuno di noi ha proposto dei brani legati alla propria cultura musicale e abbiamo poi cercato appunto di riarrangiarli in un'unica chiave, che è quella, diciamo, del jazz, ecco. Sì, difatti il Pino Daniele ha sempre detto a me piace il blues, io l'ho detto in italiano. Infatti questo è proprio il brano che facciamo. A me piace il blues, chiaramente deriva parte da là, lo sviluppa, sì. Anche se poi lo ha identificato in un'altra maniera, ha fatto un percorso musicale un po' diverso, adesso però è ritornato a quello, sì. È ritornato al blues. Infatti l'ultimo pezzo, che adesso mi sfugge il titolo, è veramente molto, adesso, molto bello, proprio l'ultimo, quello che stanno trasmettendo magari, sì, per la maggiore, è veramente il nuovo singolo. Sì, hanno riarrangiato i pezzi di una volta, lui li ha ripresi, li ha rivissuti a sua maniera, a suo modo, però è ritornato alle origini. Che il blues è il DNA di tanti musicisti, di tutti, sì. Possiamo dire, a maggior direi parte di musicisti, il DNA è il blues, c'è poco da fare. Maurizio, facciamo un regalo a Rita, a Flavio, ad Alessandro, e facciamo ascoltare un pezzo della nostra demo. Un pezzo della vostra demo, cosa dici? Cos'è il titolo? Sai che non ricordo proprio la numero 2, qual è il titolo della 2, perché ho preparato, Flavio, provo a far partire la 2, dopo non vi dirò il titolo, ve lo dirò dopo. Facciamo ascoltare la canzone. Again, and I've Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Quando le cose sono belle passano velocemente i minuti, le ore. Sono già le 22:20 di questo giovedì 23 dicembre 2010 con i White Voices a Blu Radio Veneto. Rita, che pezzo era questo? Space Cowboy, Jamiroquai. Ciao Flavio, intanto ne approfitto. Ciao Flavio. Quindi questa è la musica che proponete voi? Esatto, sì. Infatti si sentiva, era un po' riarrangiato anche questo in chiave un po' jazz. Con come si chiama la band? FJ Quintet. FJ. Prossime date, tappe? Prossime date abbiamo, il 31 dicembre, come si può non fare? Tanto il 31 dicembre, sì, ce l'abbiamo al President di Abano Terme. E quindi. Cosa ne pensi dell'ultimo disco di Jamiroquai, oltre delle sue Ferrari, per quella siamo a perdere? Non lo conosci, l'hai sentito? Non l'ho ascoltato, non l'ho ascoltato, mi dispiace dirtelo, ma non l'ho sentito, no, non ho sentito nessun pezzo, quindi non posso darti un giudizio. Ha avuto un'esplosione in tutte le classifiche europee, la prima settimana è stato numero uno, la seconda settimana già al decimo posto, quindi è calato immediatamente. Beh no, a me lui piace un sacco, però quello che hai interpretato te, il pezzo suo, era molto, cioè non dico più bello, però era più ispirato forse. Sta facendo, è un bravissimo musicista, un artista straordinario, però sta giocando su certi ritmi, sta non dico copiando, ma si sta ripetendo. Un attimo, si sta secondo riproponendo. Me, un mio parere assolutamente personale. Avrò tutti i conti i fan di Jamiroquai questa sera. No, dai. Ci impegneremo ad ascoltarlo. Ci impegneremo ad ascoltarlo per la prossima volta, faremo una recensione sui Jamiroquai. Un altro messaggio. Perché poi tra l'altro vengono, scusami, vengono a Milano, me l'aveva comunicato un amico, un altro ragazzo tenore dei Summertime, Nicola, che è appassionato di Jamiroquai, cioè, credo abbia anche un gruppo cover. E vengono a Milano e quindi insomma penso che andremo a vederli, sì. Magari sono stato a vedere anche Susanna Parigi, ben volentieri, che so che la tua passando di lì è una musa da un certo punto di vista, senza dubbio. Okay. Ma dal punto di vista da tutti i punti di vista, nel senso che oltre ad essere veramente meravigliosa è veramente bravissima. Te la ricordi la serata passata a sì, sì, infatti, cioè io devo solo ringraziare Agostino, perché cioè questo era un mio mito, ho detto se dovessi pensare ad una voce più pianoforte femminile, Susanna Parigi, e fatalità, Agostino conosceva Susanna Parigi e una sera è venuta qui a Blu Radio Veneto e ci ha regalato una serata splendida. Io sono venuto a anche ad ascoltare. È stato bello anche il momento. Poi, tra l'altro, insomma, aver avuto modo di parlare con lei, che è tra l'altro un insegnante di canto. Fatalità, e quindi e tra l'altro deve essere, è una delle poche insegnanti di canto moderno che insegna in un conservatorio, se non erro, quello di Trento. Non sai vorrei... che quest'anno ha vinto il premio Gaber, no? Ecco, e qui feci la figura. No, purtroppo serio, no, purtroppo no, e sono veramente un'emozione, che contento per lei. Sì, esatto. Un'emozione. Poi lei, vedremo di portarla qui a Padova magari a fare un concerto. Magari. Ben volentieri, noi apriamo. Ciao cioè, Susanna. Sai che devi cantare le tagliatelle in una pina con lei. Sì, sì, va bene qualsiasi, infatti gli dicevo, esatto. Fammi cantare anche le tagliatelle in una pina con lei, che va bene lo stesso, io sono felice uguale. Qui gli sms continuano ad arrivare. Che bello, pullulano, come direbbe l'Antonella Cozzolino. Bisogna dire la verità. Allora, la Alice dei Summertime e dice, scombinate di più la scaletta e chiedete ai tre maschietti di suonarvi The Spirit Caves On. Ecco, noi che volevamo fare una sorpresa. Ma no, va bene. Un bacio a Lau. Chi è Lau? Lau sono io. Eri Tuzza, che sei tu. Senza dimenticare la contraltessa Valentina. Un abbraccio a tutti. Cara. Grazie Alice. Finalmente una bella serata di cantanti straordinari che ci tengono compagnia e ci riportano anche in un'atmosfera natalizia che pochissime radio ormai regalano. Grazie. Grazie a tutti e complimenti soprattutto alle due strepitose voci femminili, Rita e Laura. Buon Natale da Ari e Multifans. Multifans. Bellissimo. Multifans. Beh, dico anch'io grazie a queste persone che Sì, direi proprio di sì. Apro grazie. Anche una piccola parentesi, credo sia un orgoglio, come dicevo anche l'altra volta, per noi di Blu Radio Veneto, avere una serata come questa. Io ne sono particolarmente fiero, grazie anche a Maurizio e le sue idee, di aver organizzato queste serate, perché credo che nessuna radio, soprattutto quelle qua locali a Padova, dia spazio agli emergenti, agli artisti locali e soprattutto a chi vuole fare musica fatta veramente come si deve. E questo è un po' merito nostro, ne siamo veramente fieri. E noi siamo onorati di regalarvi questa. Ecco un altro messaggio. Grazie. Grazie. Da padre, perché questi sono tutti figli miei, sono orgoglioso di loro, grazie di esistere, Claudio Mengato e Family. Grazie Claudio. Grazie. Sì, si sente anche poi per il papà l'ospitalità di tutti. Delle prove. È vero, sì, tante serate. È quello. Sì, noi andiamo avanti a casa mia a provare fino a luna. Esatto. E nessuno dice niente. Sì, io credo di essere uno dei più fortunati. Beh, sulla faccia della terra. Se hai una birra, devo ringraziare tutti a casa. Sì, perché... abbiamo birra, vino a casa Mengato. Panettoni, pandori, rosane. E poi il cane che canta. Il cane che canta. Esatto. Allora vengo anch'io la prossima volta, mi autoinvito, va bene. Allora, cosa ci fate ascoltare adesso, visto che dobbiamo regalare questi momenti splendidi? Ecco. Beh, sembra ci sia stata una richiestona da parte di Maurizio, se non erro. Quando un album sta 150 settimane in classifica in Inghilterra, nei primi 10 posti, non si può negare che era un grande album. Sì. Uno che si chiama Paul Simon ha fatto la storia della musica, e anche Art Garfunkel con la sua musica, con la sua voce che era musica praticamente. Sì. Quindi il pezzo è famosissimo, non occorre presentarlo, basta le prime note. Ok. When darkness comes, silver girl. Say on by, your time has come to shine. Only you try them all. Saints, how they shine. Only if you need a Focus. L'attualità dal Veneto, le voci dei protagonisti, approfondimenti e notizie in tempo reale, con Mirko Cavallin dalle 11 alle 12.30, dal lunedì a venerdì, su Blu Radio Veneto. Focus. L'attualità dal Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sono le 22:32 minuti di questo giovedì 23 dicembre 2010. Siamo sempre collegati, siete sempre collegati con Blu Radio Veneto, con la voce di Agostino, quella di Maurizio e soprattutto con le voci di Marco, Laura, Rita. E poi sentiremo ancora Marco e anche Alessandro. Intanto un applauso alla canzone che avete fatto poc'anzi, perché è stato qualcosa di eccezionale. Grazie, grazie, perché grazie, veramente grazie. Qui la gente è invisibilio, come si suol dire. Bene, bene. Infatti dicono un saluto caloroso ai miei amici White Voices, in particolare a Marco, il mio insostituibile maestro di canto, e ad Alessandro, uno dei batteristi che rispetto di più nelle scena, nella scena patavina. Fateci grazie. Un Another Day, ragazzi. Tiziana, che o Tiziano, bello. Tiziano. Tiziano. Tiziano. Grazie, Tiziano. Grazie mille. Un saluto. E poi ce la fate Another Day? Magari Another Day no, perché purtroppo Another Day la faremo Another Day, perché Another purtroppo Day. La mia situazione vocale attualmente non mi permette di arrivare a certe cime. Però stasera, però grazie, visto che comunque c'era stata una richiesta da parte di Alice prima di un pezzo di, certo. dei Dream Theater, allora penso che potremmo magari accennarlo, insomma, ecco. Arrivano i baci, Arrivano i baci. Sì, sì, un bacio, baci. Un bacio immenso al meraviglioso ragazzo. Non credo. Meraviglioso. No. Seduto alla tastiera, che possa continuare a coltivare la sua passione con enfasi e successo. Grazie. Grande Marco. Non c'è il nome. Grazie Marco. Non c'è. Non c'è, grazie. C'è grazie. Beh, ricordiamo comunque il numero di cellulare per i vostri SMS: 346 23 20 033. Oppure ci potete chiamare qui in studio allo 049 875 6423. Ricordo che in regia c'è Michele Toson, alle telecamere c'è Roberto Baldi, ma c'è la telecamera mobile. Stiamo sperimentando questo nuovo progetto con la Chiara Goffo che sta passando in mezzo. Di artisti, e così ve li fa vedere anche in primo piano con la webcam, con la webcam mobile. È arrivato anche Flavio Bilato che ha dato il suo contributo, da sottolineare questo importante. Grazie mille. Allora vi ricordo lo streaming, audio, se ci volete ascoltare tramite internet, allora basta collegarsi nel sito della nostra emittente, cioè Blu Radio Veneto, quindi www.bluradioveneto.it. c'è una specie di spazietto, un rettangolino rosa con scritto streaming, sotto c'è una freccia piccolina nera sulla sinistra, basta che cliccate lì e e poi andate appunto in diretta streaming. Vi ricordo anche la diretta streaming video, che è ancora più semplice, basta collegarsi nel sito www.direttarockwave.tk e quindi avrete modo di vedere anche con le telecamere fisse e non solo, ma anche con la telecamera mobile, come dicevo prima, gli artisti tramite internet. Allora, io ne approfitto per ricordare ancora una volta, se c'è qualcuno della zona di Vicenza che è in zona, che ci vuol dare qualche notizia più dettagliata, più precisa sulla situazione che si sta evolvendo, speriamo in meglio, non in peggio, lì è nella zona di Vicenza, perché c'è, sembra che il fiume Bacchiglione stia crescendo moltissimo, hanno chiuso le strade, c'è paura di un replay di quello che è successo un mese fa circa, insomma. Speriamo di no. Il primo dicembre, grazie Michele. Novembre, il primo novembre, grazie Michele. E quindi circa un mese e mezzo fa. Perciò se c'è qualcuno che ci vuol dare qualche notizia più precisa, saremo ben felici di darvele poi una sua volta in diretta radiofonica. Alessandro. Presente. Sì. Qua. Allora, tu invece, piano, tu sei... Piano. Cioè, se Alessandro è come prezzemolo, Alessandro Modenese, tu cosa sei? Sono un prezzemolo un po' più grande, mettiamola così. Quello di Gardaland. Ho più capelli, ti però trovo dappertutto. Ti trovo dappertutto. Ti ho trovato anche nei Summertime, però non eri sul palco. Sì, però non ero sul palco, ci mancherebbe altro. No, ero in regia video. Ero in regia video a dare una piccola mano per quanto possibile. Alla causa, niente. Tutto il concerto l'hai fatto tu comunque? Diciamo che ho seguito la parte video insieme al regista, è stata un'esperienza bellissima anche professionalmente parlando, non solo come esperienza live con i Summertime. Sì. Il concerto è stato bellissimo e il mio lavoro è stato bellissimo altrettanto, proprio per questo, insomma. Sì, sì, bella esperienza. È stato molto. Salutiamo anche Valentino, che non l'abbiamo mai nominato della band. E anche il Valentino e anche Paolo Nimis. Paolo ciao, Nimis. Paolo, e Paolo Videic. E grandissimo Paolino. Che è venuto qui con i sei mani. E tra l'altro, assolutamente, un abbraccione, Paolo. Un abbraccione. Allora, Alessandro. Allora, Alessandro nasce da una fucina di campioni. No, in realtà io nasco da casa mia, e con questo intendo dire che mio padre mi ha trasmesso questa grande passione per lo strumento, per la batteria. È batterista anche lui, di formazioni rock progressive degli anni 70-80, e mi ha trasmesso questa enorme passione, e io infatti vengo da lì, vengo dal rock, vengo dal progressive, lo suono tuttora insieme ai miei compagni Marco Mengato e Marco Zago, insieme ad Alberto ed Enrico, che salutiamo. E però mi evolvo, nel senso che ho sempre avuto tanta voglia di ascoltare musica a 360 gradi, non mi sono mai limitato a niente, né alla musica classica, folk, niente. Infatti, musica folk a riguardo, ho la fortuna di suonare da un anno e mezzo con Calicanto, questa formazione padovana che l'anno prossimo compie 30 anni di carriera. E per me è un orgoglio infinito. Ricordiamo che è appena uscito un disco nuovo. Ed è appena. Ne approfitto per salutare anche la Claudia, che è venuta qui assieme alla Rita. Assolutamente. Assieme all'Alessandra e alla. All'Anna, sì, l'hanno tosato. Sì, è appena. Vi aspettiamo uscito. Qui, lo sapete che lo sappiamo, promesso, lo sappiamo, tu me l'hai promesso. Sì, assolutamente. Anche Claudia, anche Roberto, tutti quanti sappiamo dell'impegno che ci siamo presi. E è appena uscito il nostro ultimo lavoro, Mosaico, che adesso porteremo un po' in giro per pubblicizzare. Appunto, il 20 gennaio siamo alla Feltrinale di Padova, il 22 alla Feltrinale di Treviso, e stiamo cercando di avere qualche aggancio. Comunque stiamo finendo un po' i contratti, non i contatti, anche per qualche trasmissione radiofonica, per, oltre ovviamente a questa che è già segnata nel nostro calendario. E una cosa importante invece è il 5 febbraio un attimo che me lo sono scritto perché non voglio fare, ok, al teatro TPR di Padova, perché era una sigla, non me la ricordavo. Il 5 febbraio faremo una prova aperta che diciamo è il preludio allo spettacolo che proporremo per tutto il 2011, e si chiamerà appunto Mosaico, così come il CD che è appena uscito. Come si incastra il progressive o il Dream Theater con la musica popolare di Calicanto? Si incastra, nel senso che ho questa appunto deformazione prog, e qualunque cosa io senta ce lo trovo ovunque. E quando mi hanno proposto di entrare in Calicanto, io qualche mese prima avevo sentito una canzone particolare che si chiama Marionette a Zara, che aveva un tempo, un incastro veramente stranissimo e meraviglioso secondo me, e mi sono messo sulla batteria, me la sono imparata, me la sono studiata, ho fatto una mia versione con la batteria e questo mi ha grazie. Ti danno la possibilità di, siccome un batterista progressive ha sempre voglia di andare oltre alle partiture, allargare gli orizzonti, fare una specie di jam session continua. Quei calicanto, come va la jam session continua? Un po' difficile. Ma quei calicanto ci si ritrova benissimo, perché sono musicisti straordinari. E assolutamente sì, sono apertissimi. E tra l'altro Gabriele Colti, il nostro cornamusista, anche lui è un grandissimo amante del prog, quindi ho trovato una affinità totale. Pane per i tuoi denti. Assolutamente sì, ed è stato bellissimo comunque, anche perché mi sono dovuto riadattare, certo, con estrema felicità alle percussioni, come sto suonando stasera, e quindi comunque è stato tutto un altro modo di suonare il folk, ma anche il prog, il certo, rock, il soul, il gospel. Diciamo agli ascoltatori che stanno vedendo con le telecamere che stasera Alessandro ha portato proprio un minicum, cioè piccolissimo, sì, la roba proprio essenziale. Sì, sì, sei un batterista unicum, come ho detto io, cioè praticamente sì, totale, tutti i sensi, totalmente sono batterista. Anche dal punto di vista fisico, sei un batterista, il batterista è ben messo. Assolutamente sì, anche sono musicamente ben dal punto di vista fisico, quindi ben piazzato. Sì, sì, sì, sì. Ci vuole il fisico per fare il batterista. Ci vuole soprattutto fisico, quando si usa la doppia cassa. Giusto? Esattamente, cioè proprio il fisico. E tanto, sì, cosa facciamo tanto adesso, Agostino? Posso rubare uno spazio? Un personaggio che piace a me? Devo non mi faccio contare, facciamo ascoltare una canzone. Allora, fra circa un mese è un anno che è scomparso uno dei miei idoli musicali. Io non amo solo il gospel, amo anche il TSOP e il sound di Philadelphia. Lui si chiama Teddy Pendergrass, è scomparso dopo una ventina d'anni più o meno in sedia a rotelle, ma la sua voglia di cantare, di dare la compassione alla musica, la sua musica era grandissima. Noi l'ascoltiamo in un disco che è un po' raccoglie lo spirito natalizio suo, un disco che è uscito nel 1998 e ci sono varie cover come Happy Christmas, come Holy Night e come anche This Christmas e Little Drummer Boy, se non sbaglio, piace tanto a te. Ma io ho voluto, per ricordare lui e per fare anche gli auguri di Natale a modo suo, cioè a modo di Teddy Pendergrass, vorrei ascoltare la canzone che apre il disco, che tra l'altro è anche una chicca perché non è facile trovarlo. La canzone in questione si chiama Joy to the World, Teddy Pendergrass. I said joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Heaven and nature sing. All right. Hey, joy to the world. The Savior. Savior reigns. I said joy, joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs in cloud. Let men their songs in cloud. While fields in chills and pain. Repeat the sound in joy. Repeat the sound in joy. Repeat the sound in joy. righteousness and wonders of his love and wonders of his love. So much joy, all right, to the world. Joy, joy, joy to the world. Everybody sing, all right, to the world. Joy, joy, joy, joy, joy, joy. All right, to the world. Joy, joy, joy, joy. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Agostino e Blu Radio Sera con Agostino e Maurizio a tenervi compagnia fino alle 24, quindi ancora circa un'ora e 10 minuti più o meno. Il tempo vola, loro sono straordinari e stando in loro compagnia è veramente piacevole, poi è emozionante. Poi sentirli qui dal vivo è ancora di più, cioè, chi è a casa lì tranquillo, spensierato, seduto, io sono a pochi centimetri da voi, è pazzesco veramente. Alessandro, grazie. Dove eravamo? Allora, eravamo a Calicanto e allora... Poi battere. Cioè, ma... C'è un mini assolo. Che batteva anche sì, lui. Assolutamente. E no, volevo solo ricordare due cosine veloci, però non meno importanti. La prima è un CD che probabilmente uscirà verso febbraio, di un mio carissimo amico, un grandissimo musicista, che è Alessandro Tombesi. Ci sta ascoltando? Mi auguro di sì. Ciao, assolutamente. Se no, dopo, quando torno a casa, ti aspettiamo qui. Allora, sei un grande, io mi fido di te. Assolutamente, è veramente un ragazzo straordinario, anche perché ha 16 anni e il CD è completamente di sue composizioni, se non un tradizionale, perché bisogna sempre rimanere legati alle origini, però per il resto è veramente un lavoro meraviglioso e sono orgoglioso di farne parte, insieme anche a Francesco Rocco alla chitarra e Alessandro suona arpa, clarinetto, pianoforte, organo, è veramente un ragazzo incredibile. E l'ultima cosa che volevo citare è un progetto che ho con una mia carissima amica che è Antonella Cozzolino, che saluto, grande voce dei Summertime. Incredibile, ma vero. Colpo di sciore, andiamo sempre a finire lì. Non è una fucina di purtroppo artisti, sì, frequentarli ti distrugge e ti, quindi ti porta a suonare solo con loro. Non c'è storia. Però vuoi mettere quante emozioni ti regala? Assolutamente, è stata meravigliosa. L'otto mi ha fatto quasi piangere. Perché sapere di suonare con una persona così è veramente bellissimo. E in questo piccolo progetto siamo in trio. Siamo io, Antonella è un ragazzo che è qui alla mia destra, Marco Zago, grandissimo tastierista Di dimensioni grandissime, sì, 1,95 m, signori, ovviamente. E poi grazie, penso che no, penso di aver detto tutto. Seguiteci, che tanto saremo sempre in giro, staremo sotto come il prezzemolo, senza capelli, ma come il prezzemolo. Beh, tu ne hai di grazie capelli. Ale. Sì, ma questa era mirata, ovviamente. Questa era mirata, o mio carissimo amico. Sempre qualcuno che ce l'ha con i miei capelli. Due saluti, uno anche alla nostra fotografa, Maurizio. Finalmente una persona che si ricorda della Chiara e dice attenta a non montarti la testa adesso che sei stata nominata. Ciao Beatrice. E poi ancora un saluto a questi cinque ragazzi da chi ha acceso la passione al batterista. Complimenti. Grazie. Grazie. Penso grazie. Che sia quello che ha acceso la passione che citavo prima, penso sia il mio vecchietto, sì, il mio paparone che mi sta ascoltando con tutta la famiglia. Quindi ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao. Adesso veniamo io e te. Ehi. Buonasera a tutti. Buonasera. Una cosa devo chiederti, oltre a tante cose. Dunque, sei passi a Frank Zappa, passi a Chick Corea e passi anche a Captain Beefheart o no? Lo sai chi è Captain Beefheart, no? No, ti spiego chi è morto 2 o 3 giorni fa, era l'amico di Frank Zappa e con Frank Zappa ha fatto quella musica molto particolare, sai, la musica zappiana è una musica sì, è una musica che riassume a sé una pluralità di generi, esattamente una pluralità di influenze, anche perché Frank Zappa è uno dei primi sperimentatori di questa vena progressiva di cui parlava anche Alessandro, certo. Prima diciamo che Frank Zappa secondo me è stato uno dei pionieri del virtuosismo e anche dell'originalità armonica di... è vero, a proposito di zappiano abbiamo uno di fianco e là si chiama Flavio Bilato, chiama particolarmente Frank Zappa, ma adesso si è nascosto in ogni caso. Sì, Zappa è importante, poi hai citato anche Chick Corea, perché chiaramente non potevi non citare. Un talento fuori. E adesso ti faccio fare una cosa un po' strana, adesso ti rimetti al piano un secondo, visto che ami i classici, mi fai un inizio di un pezzo di Genesis? Ok? Ok. Va bene? Ti ho sconvolto la scaletta un'altra volta, ce la fai? La accendiamo? Ce l'hai? Dimmi. È un po' di The Lamb Lies Down, dice Flavio, un po' difficile. Il nostro tasterista jukebox ha tutto, la farà sicuramente. È tutto qua. Solo Marco, solo questione di qualche secondo, solo per dare un input classico. E tu hai citato gli Yes e i Genesis. Gli Yes vuoi fare gli Yes? Fai gli Yes, quello che vuoi degli Yes. Quello che vuoi, un secondo, cioè 30, 40 secondi, 50 secondi. La suite inizio. Di 20 minuti. No, la suite no. Quello che vuoi, che dopo continuiamo a parlare con te. Perché queste robe fanno parte della nostra tradizione. Vai. Proponiamo a Randa Band. Perfetto, va benissimo quello. Non era Rick Wake, ma ci stava, ma ci stava. Scusa. No, io l'ho fatto volutamente, lo sapevo. Io avevo già l'idea all'inizio, quando sei venuto qua in studio, di farti fare questo. E vedi, sono le 22:54. Chiedo scusa a tutti gli estimatori degli Yes. No, assolutamente. È una mia personale ed immediata reinterpretazione di questo meraviglioso questo gruppo. Classico di Steve e Xochitl. Benissimo, ritorniamo a parlare con te velocissimamente, perché poi dobbiamo suonare fino a mezzanotte, abbiamo tempo di suonare. Premiata Fanny Marconi, suonare. Anche quello, poi facciamo quello, non ci sono mica problemi per noi. Assolutamente. Suonare. Allora, abbiamo parlato di Chick Corea, di Frank Zappa, di Genesis, degli S, poi quali sono i tuoi, perché fai progressive assieme a questo signore qua? Insieme ad Alessandro Arcolin, perché oltre ad essere un musicista di un gusto, di una tecnica e di una bravura eccezionale, secondo me, è anche un carissimo amico con il quale si è creata dopo tanto tempo una... Ormai sono 6 anni che ci conosciamo, vero Alessandro? Ridendo e scherzando, sono 6 anni in cui abbiamo imparato ad addomesticare i nostri, diciamo, gusti musicali insieme, a fonderli in un'intesa che secondo me... è fantastica. Tu hai detto una cosa giusta: addomesticare i nostri gusti musicali. Cosa vuol dire? Vuol dire soldoni? Nel senso che ognuno di noi, io adesso prendo in esame Alessandro e me, ascoltiamo un sacco di cose. Un sacco di cose che però, secondo il mio umilissimo punto di vista, un musicista deve essere capace di giustapporre. di a cui deve dare una linea di continuazione, insomma, certo, capito, specifica. E questo fa parte di un lavoro in sinergia, perché sono elementi che devono mettere a confronto i valori dell'una e i valori dell'altra e fonderli in quello che poi diventa l'intesa e quindi il groove, come vogliamo chiamarlo, l'intesa sul palco. Il groove. E Alessandro, io adoro suonare con Alessandro, potessi suonerei sempre con lui. Bene. Anch'io. Quanto l'hai pagato prima? No, poi aspetto il vaglia a postare 500 euro. Non si accettano banconote del Monopoli. Allora, è arrivato un messaggio anche per me, via, questa volta. Un carissimo saluto dalla Sicilia, vi sto ascoltando, siete fantastici. Auguri per tutti da Mirella, un bacio ad Agostino. Questa volta, insomma, questa è una cantante che tra l'altro... Ciao Mirella. Che conosci anche. Sì, conosco anch'io, perché... beh, devo dire che è una persona che mi ha sorpreso, nel senso che mi sono arrivati un giorno, così, un messaggio su Facebook, una valangata di complimenti che mi ha proprio sommerso e... Lei è una fans estrema... tua e di tutta la band, perché dice che siete bravissimi, tra l'altro. E altrettanto è un complimento che ricambio, perché tra l'altro anche lei canta e ho sentito alcuni video suoi su YouTube. E infatti c'è quella cover di Bonnie Tyler, che è una cosa pazzesca, è una voce che... Sì, ho sentito anche Natural Woman, mi pare di aver sentito. Sì, sì, sì. E cioè, anche sta per uscire un disco suo nuovo, e quindi appena uscirà te lo faccio sentire. Eh beh, Mirella, sarei onorato. Sei qui. E poi, in bocca al lupo. Forse magari la conoscerai di persona anche, sai? Bene, sarà un piacere. Sarà un piacere. Non ti dico di più, perché sarà una sorpresa. Ciao Mirella, un bacio da te. Agostino è l'uomo. Una ne pensa. Fermato, no, Agostino. Una ne pensa e due milioni ne fa. La potenza di Facebook. Grazie. Una cosa volevo chiederti. Vi volevo chiedere. Facciamo questa cover dei Dream Theater. Siete pronti? Una cosa devo dire a Laura. Per caso, nella tua produzione c'è anche Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, visto che è negli anni 80? Fai una domanda giusta, giusta. Mm. Ieri sera, mentre eravamo al tavolo dopo aver suonato, parlavamo dei pezzi da inserire, e questo è stato tra i primi, tra l'altro da me proposto, perché io lo adoro. Bene. Mezzanotte, manca tanto a mezzanotte. Abbiamo sempre il sospiro del pezzo di Andrea, che faremo. Sì. Però un pezzettino di James Time rivestuto e corretto da te si potrebbe fare più tardi, volentieri, se ricordassi bene le parole, perché è sempre quello il problema. La memoria. Adesso c'è qualche problema di memoria. Abbiamo 60 minuti per... Sono cose che dimentico, Laura. Sono cose che dimentico. Abbiamo 60 minuti per recepire qualcosa. Innanzitutto facciamo il pezzo di Dream Theater adesso, d'accordo? Certo. Innanzitutto. Innanzitutto. E direi che senza problemi lo dedichiamo ad Alice, che ce l'ha richiesto. Direi. Certo. Che lo vuole sempre sentire ad ogni prova, ad ogni famoso concerto. Di prima, dov'è che ho messo il... Lì, in posizione... messaggio che questa sera metterà in posizione di yoga. Sì, Spirit Carries On. Esatto, The Spirit Carries On. Ok, allora Alice, questo è per te. Un piccolo accenno. Che doveva essere qui, ma per colpa mia. No. Agostino è qui con il gatto a nove code che continua a fustigarsi da quando siamo arrivati. Perdonami. Ok. Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? What lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and now, and you're only given one shot. But could there be more? If I lived before, or could this be all that we've got? If I die tomorrow, I'd be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on. Mm-hmm. was the end. But that was before. I'm not scared anymore. I know that my soul will transcend. I may never find all the answers. I may never understand why. But I know that I still have to try. If I die tomorrow, I'd be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on. Blu Radio Sera. Svolta. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura: la strada e i viaggiatori, il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali, ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. Sulle frequenze in blu. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre emozionante la voce di Marco e il vostro contorno è eccezionale. Marco, sei bravissimo. Troppo gentile. Troppo gentile come al solito. Come al solito. Allora, che è un pezzo che ormai è sentito, però è inflazionato perché, nel gruppo, però. Ha chiesto tanto, insomma, è veramente bello, perché emozione. Un grosso saluto al vostro regista Michele, al mitico Roberto buon Natale, Alessia da Verona. Ciao Alessia. Allora, io vi rubo ancora 3 minuti, tempo di presentare una cosa. È giusto sensibilizzare un po' la gente, perché non c'è solamente l'allegria, ma c'è anche chi sta soffrendo. E quindi è giusto pensare non solamente a noi, ma anche a chi ha questo problema, questa sofferenza. E nel mondo ce ne sono tante persone che sono in sofferenza, che hanno bisogno di aiuti. E allora, per fortuna, nascono iniziative straordinarie a sostegno. Questa di cui vi sto per parlare non è altro che un progetto nato da Mr. Brown per i bambini di Haiti. Lui si chiama Andrea Pellizzari, nei panni dello strampalato insegnante d'inglese del programma TV Le Iene. Nel maggio scorso, 5 mesi dal terremoto che ha provocato più di 230.000 vittime e 3 milioni di senza tetto, ha fatto cantare e ballare i bambini dell'orfanotrofio di NPH, che cioè vuol dire Nuestro Pequeños Hermanos, i nostri piccoli fratelli, di Haiti, realizzando un brano e un videoclip dal titolo Miss Brown is Back in Town, è tornato in città, con lo scopo appunto di raccogliere fondi a favore della Fondazione Francesca Rava, NPH, cioè Nuestro Pequeños Hermanos, i nostri piccoli fratelli. Io credo che sia giusto dare spazio un attimino a questa canzone. Io l'ho scoperta per caso l'8 dicembre, andando in Summertime, sono entrato alle 3 del pomeriggio, c'erano questo coro di bambini sul palco, diretto appunto da Mr. Brown, che stava provando e riprovando. Alessandro, tu puoi confermarmi, anche confermo, tu Marco. Confermo. Sì. E sentivo questa canzoncina che girava. Tra l'altro il coro dei piccoli, chi erano? I Kids, Summertime Kids. Ovviamente. E questa canzoncina che girava, io sinceramente pensavo fosse una gag sua, ma non sapevo veramente, mi scuso, ma non sapevo la quello che lui aveva creato. Io ti dedico di dare spazio a questa iniziativa. Questo è un disco che trovate tranquillamente in vendita, costa 5 euro, donate questi 5 euro per questi bambini che hanno veramente bisogno di assistenza e di aiuto. Hi students, I'm your English teacher. Hi, Brown. Have you done your homework? Yes, sir. Are you sure, students? Now I'm going to give you a lesson. Are you ready? 2, 3, 4. Yes, it's Lesson number one. What is the nose? The nose is for breathing, for smelling fresh bread, flowers, and sparking a memory. Lesson number two. What is the mouth? The mouth is for eating, drinking, talking, laughing, kissing, and singing. But best of all, use your mouth to smile. Lesson number three. What are the eyes? The eyes show who you are. They cry when you're sad. They shine when you're in love. Lesson number four. What are the ears? Your ears are there to let the words in. Listen to the music and shh, appreciate the silence. There is nothing you can do with a smile on your face. There is nothing you can do all together. We can make a better world, better world, better world. We can make a better world all together. Let's say, wow. Let's say, oh. Let's say, mmm. Let's say, mmm. Wow. Mm-hmm. Yes! Mr. Brown is back in town. Mr. Brown è tornato in città. C'è una cosa da ricordare: chi avrà modo di acquistare questo disco, alla fine, cioè nel videoclip, alla fine c'è una scena emozionante del piccolo Mr. Brown haitiano di 6 anni che posa questa prima pietra di quello che sarà poi l'orfanotrofio che verrà costruito grazie ai fondi raccolti attraverso appunto questo progetto. È stato emozionante saperlo, Alessandro. Io non l'ho, veramente è stata una sorpresa. Io è stata una sorpresa bellissima, anche perché comunque è una cosa meravigliosa quella che sta facendo, e lo sta facendo con tanta simpatia, con tanta voglia, e si vede tantissimo il lavoro che sta facendo. Complimenti ad Andrea. Veramente emozionante. Complimenti ad Andrea. Che lo saluto caramente, ho avuto modo di conoscere due parole, ovviamente. Perché è stato... c'era. Però è stato veramente, ha avuto veramente una grandissima idea. Sì. Un piccolo SMS, grazie per le bellissime parole. Comunque vi sto anche vedendo, siete carini. Baci a tutti. Non si è filmato, non grazie. Si è filmata, non sappiamo chi è. Sarà un uomo che ha scritto prima, magari, no? Adesso sì. Vi sto anche vedendo, potrebbe perché sembrare. Dici, siete bellissime. Poi voi due siete lo splendore. Bellissime, sì, giusto. Mica vero, sei ripreso anche te. Accidentale. Siamo circondati dalle. Però vi posso garantire che le due presenze femminili sono molto, ma molto carine. Grazie. Confermo. Confermo, Marco. Allora, adesso facciamo un po' di White Voices, però. Eh sì, dai. Torniamo, ci avviciniamo verso il finale. Verso Arita. Verso Arita? No, verso Arita. Una battuta. Un pezzo di Arita Franklin. Wow, allora c'entri tu adesso. Dal nome, eh, direi. Sì, quando si parla di Arita Franklin io associo sempre a te. Vero? Ti che giuro, bello, un bellissimo complimento questo. Un po' anche esagerato, Minelli, però addirittura pezzoni adesso. Vabbè, però apprezziamo molto. E niente, vi facciamo ascoltare Natural Woman alla nostra maniera. Che piace anche la Mirella. Giusto? Ah, vedi. Eh sì, è vero, sì. L'avevamo detto prima. Eh sì. Before the day I met you. keys to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in a lost and found, tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, una cosa che a me è piaciuto della Rita, ha fatto così. Ha dato l'input per un momento di silenzio e poi tutte quante le altre hanno seguito. Beh, no, dai, diciamo che serve un po' per le chiusure, magari adesso lo faccio chiusure. Io perché sono quella un po' più come mai esibizionista. Rita, Rita, o Rita Franklin dentro il tuo animo, proprio così fortissima. Beh, io sono cresciuta con due cantanti, Whitney Houston e Aretha Franklin. Ho ascoltato loro da piccole, ma da ero tanto piccolina ascoltavo questo genere musicale. E quindi sono appunto cresciuta proprio con questa musica così dentro di me. Soul, assolutamente soul. Sì, sì, assolutamente sì. Benissimo, sono il 23-14 agostino, il tempo corre, Enzi. C'è un ulteriore messaggio da leggere, non so per chi sia, comunque l'unico problema è che il genitore continua a pestare mentre Ale si è oltremodo raffinato, per fortuna di chi lo affianca, io mi devo adattare. Complimenti, Massimo. Grazie Massimo, immaginavo già prima di sapere il nome, grazie Massimo. Rita, hai previsto Love of My Life un pezzettino o no? No, dai, no, l'abbiamo fatto la volta detto, scorsa. Però hai previsto Forever Mountain? Sì, esatto, sì. Sì, sembra di sì. Qui nell'aria si dice che adesso partirà la Laura. Ce lo fai Laura. Con una tonalità che tra l'altro improvviserò perché non ricordo. Che basta un pezzettino, giusto per far capire la canzone che tu cantavi in una maniera splendida. I got so much to thank, to thank my God for so many wonderful blessings and so many open doors. A brand new mercy along with each new day, and that's why I pray to you, And for this I give you a praise. C'era un silenzio tombale. Ma chi è? Chi sei? Chi io sei? Io mi chiuso le maniche perché non si vedono. È sempre la reazione epidermica. Reazione epidermica. Traduzione per Blu Radio Veneto: i penotti. No, dai, bisognava dirla già. Stava troppo. Ma credete che emoziona tanto anche me? Poi sempre. Questa tunica d'argento che ti ho visto un anno fa è stato eccezionale. Guarda, ogni volta che la sentivo cantare questo pezzo, proprio non riuscivo a cantare. Cioè, era veramente una cosa stranissima, eri su un altro mondo, poi sentivi questi acuti sì, belli, infatti, troppo belli, come veramente. Ho detto anche tante altre volte che ero al di qua, cioè io vi ascoltavo come tutto il pubblico, vedevo veramente le facce della gente, del pubblico che sentiva la Laura, e erano, ma è possibile che sia lei? Sembrava quasi non fosse vero, che non fossi tu, ma arrivavi a delle tonalità altissime, che adesso è solamente la parte iniziale, poi con il coro dietro, tutti i musicisti. Sì, infatti, penso che sia proprio la bellezza del pezzo, la crescita del coro, e il solista per forza di cose entra in un mondo che è tutta un'altra cosa, e io entravo in un altro mondo. Credo mentre sia orgogliosa e fiera di questa canzone. È una canzone e all'inizio non riuscivo a cantarla perché non riuscivo a sentirla mia, e ci sono voluti diversi mesi, e adesso è tua, proprio tua. Io la adoro questa prima canzone. C'era la Claudia, se non sbaglio, che la cantava. Sì, la Claudia prima di me. Ragazzi, siete sempre fantastici, un abbraccio a tutti, in particolare al compagno di sezione ritmica. No, sei gettonato. Oh, questo sì, basta che, però è adesso, un certo bassista. Un certo bassista straordinario, grazie. Allievo di un altro certo bassista. Un sacco di ascoltatori stasera che ci mandano messaggi. Li ricordiamo a proposito i nostri numeri telefonici. Sì. Allora, il SMS, il 346 23 20 033. Il numero di telefono per raggiungersi qui in studio invece è lo 049 875 6423. Vi ricordo che questa è sempre la vostra emittente in questo momento preferita, cioè Blu Radio Veneto. E abbiamo il nostro sito che appunto è www.bluradioveneto.it. Ho capito che hai scritto, grazie Michele. Ok, adesso con Alessandro per ritornare al discorso iniziale verso le 9:30, un'ora dici. Un'ora fa di più. Siamo pronti a fare un piccolo omaggio a De André, a Fabrizio De André, fatto con Laura. Sì. A vostro piacimento il pezzo che avete deciso di fare. Posso permettermi di dire una cosa? Vai. Chiaramente la dedico ad Alice, con cui canto questa canzone, e devo dire che mi trovo benissimo a cantare con lei perché c'è un'ottima sintonia. E poi, se sta ascoltando, la dedico a un mio carissimo amico che in questo momento dovrebbe essere in treno in viaggio per la Puglia e che adora De André, che si chiama Giambattista, e che saluto. Bene, ok, siamo pronti allora. Bene. Non ho un piccolo accenno di cose che dimentico. Ok. C'è un amore nella sabbia, un amore che vorrei, un amore che non cerco perché poi lo perderei. C'è un amore alla finestra, tra le stelle e il marciapiede, non è in cerca di promesse e ti dà quello che chiede, cose che dimentico, cose che dimentico. C'è un amore che si incendia quando appena lo conosci, un'identica fortuna da gridare a due voci. C'è un termometro del cuore che non rispettiamo mai, un avviso di dolore, un sentiero in mezzo ai guai. Cose che dimentico, sono cose che dimentico. Qui nel reparto intoccabili, dove la vita ci sembra enorme, perché non cerca più e non chiede, perché non crede più e non dorme. Qui nel girone invisibili, per un capriccio del cielo, viviamo come sentiamo il gelo, il cielo. Bene. Grazie. De André ci voleva in ogni caso. Che quando ha scritto La Buona Novella, ricordiamo La Buona Novella, un pezzo, un disco meraviglioso. Abbiamo un rush finale adesso, Agostino. Il rush finale è di da cantare, cantare. E siamo, ci avviciniamo a Natale. Cantiamo tanto. Ci avviciniamo a Natale con le voci loro. Cosa dici? Pienamente d'accordo. Io quando cantano loro, sai che sono sempre d'accordo. Cosa ci fate ascoltare adesso? Holy. Holy. Sì, andiamo con un brano di Donnie McClarkin. Che questa sera dedico a Barbara, visto che gliel'ho detto. Mi piace tanto, me l'hai fatto fare e mo te lo rubo con il White. Siamo sinceri. Sì, sì, più sincero di così non potevo essere. Quindi grazie Barbara. Ciao Barbara. Grazie Barbara. Allora, Poli. Voice and I will sing. I will sing holy. I will sing holy to my Lord and Savior, my God and King. I will sing holy. I will sing holy. I will praise the Lamb of God. Upon the throne, he will worship him and give the praise to him alone. He who was and is to come, I will sing before his throne forever, forever. And I sing holy, holy. We're sons and daughters, we praise you now. I will sing holy, holy, holy. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. facciamo solo che battere le mani. Complimenti, perché siete veramente straordinari. Tra l'altro è arrivato un SMS, quindi prendo anche spunto per dirvelo. Dice la Susi: che bella atmosfera, grazie Ago, e un bacio a Michele. Va bene? Sei contenta, Michele? Grazie, ciao Susi. Allora, io però vi devo chiedere, fatevi un po' di pubblicità, nel senso, avete un sito, un qualcosa, sì, Facebook? Certo, abbiamo... Certo, è giusto promuovervi. Sì, sì, sì, abbiamo una pagina Facebook, solo che per andare nella pagina Facebook bisogna scrivere White Voices staccato, se non erro, perché ogni volta che lo cerco non riesco a trovarlo. Sì, dico, White Voices staccato, sì, White non... Voices, e mentre abbiamo il nostro MySpace, che è www.myspace.com/wvoices. Ok, perché White Voices ce l'avevano già fregato. Bene. Ecco. W Voices. In ogni caso, se si scrive anche su Google White Voices tutto attaccato, qui tutto attaccato, viene fuori direttamente la pagina MySpace in prima linea. Quindi è gestito direttamente. Lì ci sono, c'è un po', vabbè, la nostra biografia e poi ovviamente ci sono delle demo? Sì, un po' di, sì, delle registrazioni live che abbiamo fatto quest'estate, un po' di registrazioni che abbiamo fatto anche per quanto riguarda il repertorio sacro, quindi per i matrimoni, e poi sì, abbiamo inserito tutte le date che faremo da qui al 5 gennaio. Sì. E che ne abbiamo un po', perché da domani partiamo e praticamente ci fermiamo solo il 30. Il 30. Beh, approfitterei per invitare chiunque volesse il 26 di dicembre. Avremo un concerto in chiesa. Siamo onorati di fare questa, siamo a mezza questa cosa. Via. A mezza via. Sì, a mezza via. Ore? Orario? Orario è alle 5. Il 17. Sì, durata. Nella... durata più o meno sarà un'oretta e mezza. Lascio circa casa il vestito da Babbo Natale. Sì, sì. Sì. No, vieni direttamente in bermuda e cappello di paglia, che così prendiamo in giro quelli del bello. Dicevo l'orario, 17. Alle 17, 17, alle 17. Sì, alle 17, alle 18:30 più o meno, e il repertorio... Ah, sorpresa. No, comunque sarà comunque un repertorio prettamente natalizio, insomma, perché comunque essendo in chiesa. Poi ne avremo un altro anche di sera, se vuoi dire. Sì, anche quello della sera. Beh, siamo al Hotel Miramonti di Montegrotto. Di Montegrotto. Sì, perché l'ultima volta è stato bellissimo e gli ho detto: ragazzi, perfetto, allora ci vediamo al Mille Pini tutti quanti. Ho girato tre quarti d'ora per cercare il Mille Pini. Il Mille Pini. Peccato, si chiamasse Miramonti. Scusate, sono quelle dei paianze. Mira i monti con, sì, Mille Pini. Nel frattempo, sì, l'avevo addirittura scritto su MySpace. Sì, sì, sì, è vero. Ascolta, però per contattarvi, comunque lo gestite direttamente voi il sito di MySpace. Sì, sì, sì, lì c'è la nostra mail, whitevoices@gmail.com. E comunque lì ci sono tutti, anche il numero di telefono. Se la Rita me lo restituisce. Sì, stasera te lo restituisco. Quando il primo supporto? Il primo supporto... Ci stiamo lavorando. Digitale o anche fisico? Sì, vabbè, una piccola demo noi ce l'abbiamo già e non l'abbiamo portata. No, però vabbè, insomma, sono i brani che appunto abbiamo registrato quest'estate, però insomma. Diciamo che con l'anno nuovo abbiamo in progetto... Sì, intenzione di fare qualcosa di serio. Fatta bene. Bene, che bene. Così quando la riscoltiamo diciamo, ok. E cosa dai, sarà? Qui non c'è... Dammi... Soul, misto, cosa? Beh, sicuramente sì, quello sì, che facciamo, cioè quello che siamo, perché noi nasciamo così con questo repertorio, sì, quindi sicuramente svilupperemo, ecco. Sarà un po' uno specchio delle nostre radici. Non... È inutile che vi dica che una volta uscito il disco, una serata è qui. Assolutamente sì, mi sembra giusto. Vabbè. E magari anche con un po' di tutto voce. Tutto il bene che vi voglio, non potete dirmi stavolta. No, no, assolutamente. No, no, no, guarda. Anche non perché è un piacere per noi, quindi... Cioè, che non dovremmo, che va al di là dell'affetto che ho comunque per voi, insomma. Però vi aspettiamo volentieri qui, insomma, sia grazie, io che Maurizio. Grazie, grazie Maurizio. A fare una bella serata. Adesso White Christmas. Wow. Così approfittiamo per augurare a tutti buon Natale, direi. Esatto, cominciamo ad augurare buon Natale, perché abbiamo solo mezz'ora per augurarvi. Visto come passa il tempo. Buon Natale. È volato, sì, è volato, sì, veramente. 24 ore e 30 minuti per augurare buon Natale. Sì, beh, quello ai nostri parenti, però in radio quando mai ti ricapita. Sì, bene, sono puntiglioso, mamma che puntiglioso. Io approfitto per dire una piccola cosa, certo, posso dirla, certo, ancora? Sì. E questo brano lo dedico ad una persona che in questo periodo sta vivendo come un'esperienza bellissima, siccome non abbiamo avuto modo di farci il regalo di Natale, perché non abbiamo tempo più che altro, volevo fare il mio regalo di Natale, White Christmas, ad Andrea, grazie, che è il mio compagno. Un abbraccione. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Radio Sera. Allora, mancano ancora 30 minuti e poi ci saluteremo, però questo è un pezzo, Maurizio, è straordinario. Sì. Mi è venuto in mente una cosa. Questo pezzo è stato diviso in tre parti, in tre momenti, e l'ultimo momento ricordava il sound di Phil Spector. Sai che è Phil Spector? Phil Spector negli anni 60 aveva ripreso tutti i gruppi soul e aveva fatto un disco di Christmas famosissimo con i gruppi soul. Geniale. Era geniale. Phil Spector, il produttore di John Lennon, adesso ha fatto una brutta fine per chi incassa, perché ha ucciso una persona, però un produttore geniale, è inventato proprio il sound di quell'epoca, tutti i gruppi degli anni 60 di soul, i Ronettes, il gruppo di Diana Ross, eccetera. Quello era Phil Spector, e mi è venuto in mente quella cosa là, soprattutto nel finale, che ricordava molto questa roba qua. Io trovo una cosa molto bella, molto significativa. Ricordiamo che Christmas di Phil Spector è il disco di Natale più importante della storia della musica, in ogni caso. Bene. Tu sei un mostro di conoscenza. Sì. Rita, hai visto? Le so tutte, cioè è impossibile proprio beccarlo impreparato. Ogni volta che viene qui qualcuno, lui sa tutto, c'è anche le virgole. C'è proprio una cosa. Che bello. Veramente. Bello, complimenti. E non lo dico perché è qui che mi ascolta, proprio perché è vero, cioè proprio. No, vabbè, ma. È una conoscenza. No, assolutamente d'accordo, che... è affascinante ascoltare. Adesso sono montati da te. No, ascoltare Maurizio. Assolutamente quando... è solo una. Non so come faccia di immagazzinare. È una sola conoscenza dopo, dopo 35 anni di radio, chiaramente qualcosa viene fuori. È solo una conoscenza. Cazzo, e mi è venuto l'idea, cioè l'input vostro. Sì. È arrivato a quel. Siamo nel 1963, sono passati molti anni, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Quando la musica è valida, che sia del 63 o 73 o del 2010, quasi alla fine, è sempre valida. Certo, assolutamente. Certo. Allora, adesso? Adesso due classici, adesso, li presenta Marco. Esattamente. Allora, noi partiamo con due classici che hanno un nome molto Marco, simile. 30 secondi di Non Troverai Running ci stanno. Mi fai a cappella. Dai, che ti facciamo anche il coro. Dai. Down around the corner, half a mile from air, can see them both feet run and watch them disappear without love. Oh, where would you be now? I don't know. Without love. Oh, yeah. Questo, di ieri, ti giuro che è stato improvvisato, non è stato per niente. Sì, mi hai proprio preso, cioè ero lì, stavo per dire jingle bell e mi è uscito. Sai che questa è la mia sigla del telefono? Sì, sì, me l'hai fatto sentire. Ma Agostino, io cioè, questo per farti capire quanto no. Viene, e io sono quella dei messaggi, Agostino. Dei messaggi. Perfetto. Lì, certo, c'è la sveglia che sarà la Laura con la sveglia, la sveglia, la Laura con fuori di morte. Gli MMS magari. MMS. Benissimo. Allora, dai, grazie, grazie Marco comunque per questi 30 secondi. Grazie a voi. E andiamo quindi con Jingle Bells e poi facciamo una bella cucitura dietro e andiamo con Jingle Bells Rock. Rock. Open sleigh. Oh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Where the field will go, laughing all the way. Bells on the ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and jingle sleigh song tonight. Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I throw a take a ride. I'm soon in Miss Van Bride. I'll sit with by my side. The house will ring and lang. Misfortune seems his lot. We got into the driving back and that we cut up saw. Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fighting is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All I'm finding is to ride in a one-horse open sleigh. Into the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on mountain ring, making spirits bright. What fun it is to light and sing and sing a song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open, one-horse open, one-horse open sleigh. Wow, un pezzo roccheggiante quasi. Esatto, e roccheggiante arriva adesso con Jingle Bells Rock. dancing ring, snowing and blowing out bushels of fun. Now the jingle up has begun. Jingle bell, jingle bells rock. Jingle bells chime in, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle up has begun. Jingle bell, rock. Jingle bells chime in, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell. Rock, jingle bells swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle bell has begun. Jingle bell, jingle bells rock. Jingle bells swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle bell has begun. Marco! Jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Rock. Buon Natale. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fammi uscire da qui, ho caldo. Ok, ci siamo. Eh sì, mi è venuto in mente una cosa. Esci pure dal riposo di un secondo, abbiamo circa un quarto d'ora di tempo. Avete caldo, ma qua è sempre caldo. Caldo le orecchie. Jerry Lee Lewis, lo conosci? Sì. Ecco, è un po' di rock and roll, ti fa sempre bene. E stasera hai fatto del grande rock and roll. Grazie. Fa quel che si può. Ma hai fatto della musica. Ti hanno lasciato lo spazio giustamente e ti sei buttato sul rock and roll. Rock and roll è il padre o la madre di tutto. Sì, è vero. Cioè, è, diciamo, la materia prima attraverso la quale poi si sono originati tutti gli stili. Non ti sei seduto sul piano come faceva Jerry Lewis? No, quello no. No. Perché lui al suo piano ci tiene in maniera leggermente maniacale. Lui si sedeva, suonava così, era un po'... Forse lui regalavano i pianoforti. Sì, può darsi. Cioè, esatto. Marco, no, poi comunque qui dentro non ci sarebbe stato. Non è possibile, chiaramente ho tirato fuori una battuta, però è così, lui è un pianista straordinario. Ieri sera ho suonato un pianoforte a coda, tra l'altro. Sono andato a suonare al Vapore, storico locale di Mestre, un trio jazz, e ho avuto il piacere di suonare questo bellissimo strumento che, per quanto io sia affezionato alla mia compagna qui che ha suonato la mia tastiera. La tua tastiera, chiaramente. Il pianoforte ha un suono inconfondibilmente originale che lo rende unico. Adesso abbiamo circa un quarto d'ora per finire. Sappiamo come finirà. Però fra questo avete qualche altro Holy Night, lo fate? No, abbiamo un altro brano di Natale. Sì, che facciamo l'altro brano di Natale. Silent Night. Benissimo, facciamo. Mi ricordo una versione di, a proposito del Beach of the Troubled World, di Simon & Garfunkel. Silent Night, te la ricordi? Forse l'ho ascoltata oggi, ma perché mi stavo riascoltando un po'. Allora, se non mi sbaglio, ho ascoltato la versione. Ho citato Simon & Garfunkel perché 30 secondi, dicasi 30 secondi, fate il refrain di Bridge Over Troubled Water. Così attacchiamo Silent Night. Quella che avete fatto prima. Il refrain. Sì. Vai, mettiti al pianoforte, mettiti al piano. Come Jerry. Che esattamente, su queste acque. Su queste acque agitate, poi salutiamo. Siete pronti con queste acque agitate? Sì, solo un refrain. Sì, magari facciamo solo la prima strofa. La prima strofa, esatto. La prima strofa. Okay. Scusate, ci stiamo accordando. No, è la diretta, bello. È così. Bello della diretta. Io sono accordato. When you worry, feeling small. Prego con Silent Night. Silent Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, ancora gli ultimi sms, salutiamo il tastierista numero uno, Marco e Federico. E poi non so chi sia, se sia maschio o femmina, chiede se avete appena cominciato la trasmissione e quanto state ancora qui. Beh, noi possiamo andare anche avanti tutta la notte, però forse non abbiamo tempo. Avete i brani per un turno? Andata, andranno avanti fino alle 6 della mattina. No, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, cioè, non so se sia maschio o femmina, ma chiede, bravissimi, come si chiamano? Sì, probabilmente si sono appena sintonizzati. Ciao, noi siamo White Voices. White Voices. E il nostro sito internet è www.myspace.com/voices. Voices. Okay. Ci sono tutte le nostre date, così almeno, ecco, magari viene a sentirci. Per chi non sa l'inglese, White Voices. Per chi non sa l'inglese, cioè, nel senso, vuoi la traduzione, certo, o vuoi lo certo, spelling? Certo, vuoi la traduzione. No, in realtà è un po' buffa la cosa, nel senso che ovviamente abbiamo cominciato a fare matrimoni, no, giustamente, quindi volevamo essere le voci bianche, bianche, sì. Pensavamo ai fiori d'arancio e tutte quelle cose carine lì. Avevamo anche pensato confetti, e che in inglese suonava bene, però e confetti poi la era bello. La vita vestita da confetto era... Però i vestiti sono bianchi, I vestiti, sì, d'estate di solito ci vestiamo di bianco, sì. D'inverno sì, è un po' più difficile, però tendenzialmente se nevica ci vestiamo di bianco, però... d'inverno, sì. Rimaniamo lì come ero Vigo. Vi concedo 30 secondi a testa per dare un saluto e poi ci salutiamo tutti insieme. Alessandro comincio io. Sì. Allora, grazie mille di averci voluti qui, è stata un'esperienza meravigliosa. Speriamo di tornare prossimamente. Io tornerò. E con gli Istamo, due con gli Istamo, perfetto, sono contentissimo. Un saluto a tutti quanti, in particolare a Giorgia. Grazie e tanti auguri, buon Natale a tutti. Marco? Io? Devi alzare il microfono. Marco Zago. Io vorrei ringraziare innanzitutto la mia famiglia, la mia ragazza Isotta, che bacio e che saluto con affetto e amore, e Daniele Liverani, che è una persona molto cara per me, che mi sta seguendo musicalmente e quale spero arrivi questo messaggio, e ovviamente tutti gli ascoltatori e i miei fantastici amici, compagni di musica ed eccellenti artisti per aver diviso la serata con me. Ciao a tutti, buon Natale. Se non stai piangendo, Marco Mengato? Sì, no, infatti stavo per partire con le lacrime. E io saluto ovviamente tutti quelli che ci stanno ascoltando. E saluto e ringrazio voi perché ci avete dato la possibilità comunque di espandere la conoscenza di noi oltre modo. E saluto veramente tutti quelli che ci hanno supportato questa sera. In particolare tutti gli amici che ci hanno inviato un sacco di messaggi e sono stati veramente un sacco carini. E poi, come ultima cosa, ovviamente la mia famiglia, perché comunque mi permette di portare avanti questa passione nella speranza di farne una professione. Mi aggancio alle tue parole, Marco, li saluto anch'io, chiaramente i tuoi, visto che li conosco personalmente. E fate voi, scegliete voi chi volete essere, chi dei due. Va bene, allora, io ringrazio soprattutto voi per averci voluti qua e ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, quelli che ci hanno mandato dei messaggi molto carini, in particolare ringrazio l'Arianna che ci segue sempre, grazie, e auguro buon Natale a tutti, veramente di cuore, buon Natale. Laura? Condivido i ringraziamenti dei miei colleghi per questo invito in radio, esperienza molto bella. E ringrazio prima di tutto Marco e Rita e anche Serenella a distanza per certo. Questa esperienza che è iniziata ormai 3-4 anni fa e che ci porta ad essere ancora uniti, anzi più uniti di prima. E ringrazio tutti gli amici che ci hanno supportato da casa, la mia famiglia che ha la pazienza da anni di ascoltarsi le prove anche loro l'altra sera fino a l'una, prove fino a tardi, la figlia che li stressa con canti indicibili durante le ore più impensabili e poi insomma un grazie appunto a tutte le persone che ci seguono e ci supportano nei concerti, che sono tra l'altro cominciano ad essere tante le nostre colonne. Io ringrazio voi di essere venuti stasera, grazie, avete accettato il nostro invito. Io ringrazio Michele Toson in regia e ringrazio Roberto Baldi alle webcam, alle telecamere, e ringrazio anche Agostino, l'idea è partita anche da lui e sono molto contento È partita la telecamera, ho fatto partire la telecamera, sono sempre stato io. Ecco, adesso la mettiamo in onda. La Chiara che è stata fondamentale. È stata fondamentale. Grazie a tutti. Blu Radio Sera termina qui stasera. Rockaway si ripresenterà lunedì prossimo, perché the show must go, lo spettacolo deve sempre continuare. Buon Natale a tutti. Un saluto anche da parte mia, ovviamente io sono più di parte di Maurizio perché vi conosco ormai da anni. Un abbraccio forte a tutti e cinque, in particolare poi le due fanciulle, a grazie Marco, Agostino. Che... grazie di grazie Marco Mengato, perché li conosco da più tempo e mi avete emozionato, ma già lo facete da memoria passata. E niente, per quanto mi riguarda vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, il 30 dicembre, con un programma solamente della mia musica, le mie scelte musicali. Ci saluteremo, ci daremo un arrivederci all'anno nuovo. Vi ricordo che questa è sempre Blu Radio Veneto, la voce di Agostino Spalore, che augura a tutti voi all'ascolto un buonissimo Natale e un buonissimo Santo Stefano, ovviamente, e buona musica, soprattutto, che è la cosa più importante. A tutti. Vi aspettiamo ai nostri concerti. Grazie ai White Voices. Grazie ancora a voi. Tutti. A voi. Grazie a Michele, grazie a Roberto. Buon Natale. Vi salutiamo, anzi vi salutano con... Happy Christmas. Con ecco. Ormai l'ho già detto. Natale da 30 anni noi di Rockaway e di Blu Radio. Salutiamo sempre Natale così. Blu Radio Veneto quindi vi saluta e vi regala. E quindi questo è un onore. Questa canzone. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new one's just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. To near